Cineplegici, il podcast per malati di cinema. Quando Hola. Torno a casa mangio come un leone, anzi no, come uno squalo. Al lavoro come uno spiritoso. Sì, le colleghe mi chiamano lo scherzoso perché c'ho uno humor inglese che mi fa morire dal ridere. E quando vado a casa mi guardo Aliens Resurrection, John Rambo, Rocky, e poi c'ho 20 pistole e ragazzi, ciao. Quando che gioco mi dicono che sei tu che mini, e io ho detto no, io meno. Già è vero. Come avete capito, è iniziato il podcast dei Cineplegici, o meglio la seconda puntata dei Debosciati che parlano di cinema. Con noi ci sono, non mi ricordo come cazzo devo chiamarti, Nicolete Intrinseco. Ciao. Saluta un po' tutti, dai. Il barman. Darkman, ciao. Sei tu il barman, lo sai? Hai salvato da quando? Da adesso, l'ho deciso io. Salve a tutti. E ovviamente Baba Monk, il monco. Hello, baby! Sono stanco. Stai zitto. Una zì. Roba strana. Bocchinato. Zitte, baldracche. Dopo le difficoltà incontrate durante la preproduzione dello Hobbit, di cui abbiamo parlato nella puntata numero 0, i problemi finanziari della MGM sembrano aver indotto i boss della Eon Productions a bloccare i lavori sul prossimo episodio di 007. Voci di corridoio paventavano addirittura l'allontanamento di Sam Mendes e la fine dell'era Craig. Tuttavia, Eon Productions ha confermato che i due, anche per ragioni di contratto, restano legati al franchise e saranno i primi ad essere contattati qualora i lavori dovessero ripartire. Allora, ci stava il Monco che gioiva del fatto che era finita l'era Craig, ricordo, la fiaccolata con le bandiere di Sean Connery in giro per il mondo, vero? No, non proprio. Sono contento della fine per adesso della saga Craig, ma sarei più contento della fine della saga Bond. Generale. Non volevo dire anch'io quello. Ah, la odiate un po' tutti quanti? Vabbè, non è un esempio da mostrare in questo periodo di crisi. Dico solo quello. E il fatto che comunque sarebbe diretto da un regista che a te piace parecchio, come Sam Mendes? Anche quella è una bella notizia, così almeno farà qualcos'altro nel frattempo. Invece di sprecarsi con questo. Tra l'altro avete notato che Daniel Craig qualunque cosa tocca va in crisi, per sì. Esempio La bussola d'oro, dovevano fare il 2, sì. Non ha incassato niente e via subito, grande Daniel. Io l'altro giorno sono passato davanti agli scaffali di MediaWorld e ci stanno tutti i DVD con Daniel Craig in copertina, i vari Defiance, Archangel, ste cavolate qua, no? Cioè, secondo me hanno proprio sbagliato a vendere l'immagine di Craig, perché alla fine l'intenzione era quella, volevano farlo diventare il nuovo iperdivo della Madonna, invece, boh. Pensavo che l'avevano assunto al Media World a lavorare. Media sì. Se è vera questa cosa che porta sfiga, non lo so, non lo possono scritturare per un po' di saghe così le chiudiamo. Tipo? Non so, Twilight. Non so, che fa? No, solo per metterlo lì, così la chiudono, visto che porta sfiga. Una comparsata, basta che la chiudono lì. Tra l'altro ha trovato il suo ruolo perfetto nel remake di Fincher dei Uomini che odiano le donne. Sarà Michael Blomqvist. Per quello dovrebbe essere fisicamente perfetto. Sì, però... Poi magari manderà in crisi anche quella, e sono solo al primo capitolo. No, non ce la può fare benissimo. Fatemi capire, a voi quindi proprio non va... Cioè... Come ha interpretato Bond in questi due film non mi è piaciuto per niente. Ma è un Bond diverso. Vabbè, ma è un reboot. È un Bond post-2000 che ci può stare, però... No, noi dicevamo solo che mette in crisi le saghe, tutto lì. Vabbè, sì, quello sì. Come attore, no, vabbè, cioè, meglio di Brosnan, è adatto al nuovo stile della saga, però... Non è che mi dispiace così tanto. Vabbè, alla fine anche gli utenti che ci hanno contattato sono abbastanza d'accordo comunque sul fatto che Craig abbia interpretato bene il ruolo di Bond. In particolare c'è Idolmaster che diceva di essere, di credere di essere uno dei pochi al mondo ad amare Daniel Craig, invece non so, almeno qua dentro ce ne stanno almeno altri quattro, diciamo. Cosa, o Darkman è contro. Ma cosa? A te piace o non piace Craig? Ma non mi fa impazzire, non dice niente. Neanche nel ruolo di Bond, insomma, non ti è proprio calato. Ma non mi piace già Bond, non mi piace più di tanto Craig, quindi li metti insieme. Olè! E quindi vabbè, dai, passiamo alla prossima news che qua ci sta veramente... No, ma fai una cosa, volevo chiedere prima sì. A chi se ne intende di Bond. Penso comunque il Monco e il Prince, anzi Nicolete e l'altro che se ne intendersene parecchio di Bond. Sì. Ma la saga non è un po'... cioè non è un... non sono un po' invecchiata. La vedo... cioè che non, sia, no, non mi sembra che sia mai rinnovata tutto. Era già vecchia appunto. Ma cosa devi rinnovare? È semplicemente un agente segreto che va su un continente, poi va sull'altro, poi si scopa una, poi va su un altro, forza, poi c'è un nemico ridicolo, è finito, è sempre così, lo vuoi rinnovare. Siamo ai ventesimi episodi. Non sarà ora di chiuderla allora. Cosa? Non sarà ora di chiuderla, cioè basta. Vabbè, finché incassa. È ovvio, però... Certo, considera che nell'era Craig, cioè l'era Craig è quella più proficua dal punto di vista dei guadagni. Quindi non penso, cioè, soprattutto la MGM che sta in crisi, non credo che la butti così facile. Beh, ripetiamolo, comunque, dopo Brosnan, insomma, è facile. Vabbè, sì, però... È tutto in discesa, su. Certo. Era comunque un passo avanti, poi Quantum of Solace ha riammazzato le speranze, quindi, boh. Ma poi questo nuovo capitolo, il 23esimo, doveva essere in 3D, quindi incasso assicurato e tutti i babbioni che ci cascano ogni volta. Perché hanno chiuso? Non lo so se... No, devono fare un leasing e poi guadagnavano di... cioè, insomma, rincassavano. No, si dice che siccome la MGM si è in crisi preferiscono puntare sull'Hobbit. Quindi preferiscono prima fare quello con tutto il tantan mediatico del Signore degli Anelli e via, e non lo so. Beh, ma insomma, la saga di Bond ha un sacco di fan, quella del Signore degli Anelli ne ama meno. Poi comunque è molto più costoso, credo, la Hobbit, sarà sicuramente più costoso, quindi chissà se è solo quello, sembra strano. E poi l'Hobbit sarà in 4D, cioè. No, forse fino a quando diciamo il ferro è caldo preferiscono battere sulla saga del Signore degli Anelli, non lo so. Cioè perché comunque sì, la, però, la fanbase di Bond rimane, insomma, non è che se ne va. Non mi sembra che sia così, cioè, tanto più vantaggioso, anzi. Cioè, costa di più e come fanbase siamo lì, quindi boh. Vabbè, tanto stanno in crisi loro, a noi che ce ne frega, noi abbiamo 75 persone che ci seguono su Facebook, stiamo... alla grande, in pompa magna, su, no, no, stiamo bene, non ci frega niente, dai. Dalla prossima puntata saremo in 3D. Sì. E chi si ferma è perso, e Ridley Scott sembra credere ciecamente a questa massima. È uscito Robin Hood con Russell Crowe. Il regista britannico sta lavorando a due progetti. Il primo è un film sulla vita del broker Jordan Belfort, che fondò una società di brokeraggio. E questo film percorrerà gli anni dal 1980 al 1990, che vanno dai suoi brillanti inizi fino alla prigionia per frode. A interpretare il protagonista sarà Leonardo DiCaprio. Non lo so, vi siete già più o meno fatti un'idea, basandovi sulle news, cose del genere? Sì. E non mi sembrate abbastanza entusiasti, quindi l'idea mi sa che... Non era necessario. Vabbè, ma cavalca la scia di Wall Street 2, di questi film che racconteranno la crisi che stiamo passando in questo periodo. Prende il vivo del momento. Corsi e ricorsi storici, comunque si parla di un'epoca passata, in ogni caso. Ma fa... Oh. Sì, comunque adesso era successo, cioè due anni fa, quando l'anno scorso, quando era il crack, quindi cioè sembra la stessa... Cioè, c'è ancora. Il calendario è successo. Okay. Sì, e poi, ma poi c'è stato recentemente quel caso di Bernie Madoff, era? Sì, sì, sì, sì. Che insomma la situazione è abbastanza simile, a un ergastolo, 120 anni di prigione, no? Forse di più. Sì, però quindi magari evitiamo... stai cavalcando quel tema che in America, insomma, vende sicuramente, no? Evitiamo denunce, però. Bernie Madoff non era colluso con la mafia. No, personaggio stile. Piovono le denunce, lo so già. Dalla sua galera potrà denunciarti. C'è un commento di Dante 989 di cui il Monk ha fatto un bellissimo adesivo che... Simple. Sì, sì, sì. Fliegen Liebe! Che dice che ammette di essere, diciamo, un po' curioso di questo progetto, anche perché ogni volta che legge il nome di Ridley Scott pensa sempre ai fasti di Blade Runner, nonostante venga puntualmente deluso dai vari Robin Hood, Nessuna Verità, queste cose così. In The Mord. Sì. Comunque, anche sempre lui mi sembra chiedesse, dicesse che insomma, aspettava più Alien. Ma se ha tutti questi progetti, Scott, quando lo fa Alien? E soprattutto, era vera questa cosa? Oddio, le news l'avevo sentita anche io sul fatto che sì, avesse in cantiere il prequel di una Alien. Cosa vecchia, però... una cosa vecchia che però non è stata più ritirata fuori, mi sembra. E poi hai tutte queste idee, quando lo fai? Soprattutto non è meglio Alien, un altro film con DiCaprio, dopo Nessuna Verità, che due palle così. Lo lascerà al fratello, dai. Non è che sì, colpa però... di DiCaprio. Io preferisco. No, però visto che la collaborazione... Può fare anche Alien con DiCaprio. Sì, dai. No, l'Alien, abbiamo detto già che l'Alien lo farà Max von Sydow, l'abbiamo detto nella puntata zero, quindi quel posto è preso. Ma DiCaprio farà Sigourney Weaver da giovane. Sì. No, il papà di Sigourney Weaver è perfetto. C'è somiglianza fisionomica. Vabbè, non vedo tanti progetti. Cioè, vuole fare questo, vuole produrre l'argomento di cui non abbiamo ancora parlato. E poi ho capito, però ha fatto Robin Hood e ne voleva fare due. Adesso in un anno ha tirato fuori due cose che comunque a lungo termine gli toglieranno un po' di tempo. È già più attivo di molti altri. Tanto come è stato detto, non lo fa per incassare, no? No, lo fa per il bene del mondo. Dell'umanità. L'umanità tutta. Ma come dice Bitsu, che palle. È il commento abbastanza lapidario, ma... descrive bene il nostro stato d'animo riguardo questo. Non lo so, è un nostro ascoltatore, Darkman. Non mostrare questo Village, non me lo ricordo. No, è sul forum di Every Eye, è così. Ah, addirittura anche là siamo. Sì, siamo dappertutto. Senta un po'. Abbiamo le nostre sporche mani ovunque. Ma passiamo un malodore. Sì. Passiamo alla prossima news, che mi sembra già abbastanza più interessante di questa, perché il secondo progetto di Ridley Scott è Life in a Day, che lo vedrà nel ruolo di produttore. Il film sarà diretto, o per meglio dire montato, diciamo, da Kevin MacDonald, il regista dell'ultimo Re di Scozia. Voi vi chiederete perché dico meglio dire montato? Perché la particolarità di Life in a Day è che sarà un documentario basato su filmati della vita di gente comune. Praticamente il 24 luglio chiunque potrà, facendo riferimento a particolari requisiti, inviare attraverso YouTube il proprio filmato. I più meritevoli saranno montati in un lungometraggio che verrà presentato al Sundance Festival e gli autori dei suddetti filmati saranno accreditati come coregisti. Voi che ne pensate di questo progetto? Ho già sentito che il Monco era intenzionato a partecipare. Sì, però adesso, insomma, visto che sono un fan di Alien e di Scott, vorrei boicottare il progetto per lasciargli spazio. Vabbè, non è vero. Sì, è una cosa interessante. Si potrebbe fare tutti noi di cineplegici, che magari andiamo a conoscere Scott e gli diciamo no, non fare cazzate, amico. Non se ne frega di Scott, io voglio andare al Sundance. Vabbè, anche loro sarebbe interessante, sì, effettivamente. Ho un'idea, potremmo, se non ci hanno già pensato loro, mandare qualche filmato di Gemma del Sud. So che... O di Snippolo. Sì, anche. Sì. No, invece, non lo so, a me mi sembra abbastanza interessante. È un nuovo modo di, non lo so, di concepire il cinema, un po' come era stato, non lo so, Redacted di De Palma, che utilizzava tutti i filmati più o meno veri, non lo so. È nuovo, non mi sembra nuovo, però sì, è un... Vabbè, che cosa c'è di simile? Il documentario, cioè... No, vabbè, io dico il documentario fatto con filmati realizzati, sì, da terzi. Ho capito, però... lo so, infatti l'idea è interessante, però non è... Come fai a dire che non è nuovo, scusa? A me sembra una cosa abbastanza innovativa, anche abbastanza originale, non lo so. Io non mi pare più di tanto, no, comunque film composti da fatti da più registi insieme, comunque c'è la particolarità che chiunque può partecipare, questo più che altro, ma col fatto mo Facebook e tutti i vari social network è una cosa che viene da sé, è normale, cioè non la trovo sta rivoluzione, è una cosa interessante sicuramente, però non mi pare una rivoluzione. Sì. Tutti i giorni escono film fatti da mucchi di gente, da internet, non è rivoluzione. Allora è una rivoluzione, diciamolo. Nicoletta invece che ne pensa? Non l'ha fatto nessuno. Sì. Lo so che non l'ha fatto nessuno, però è una cosa che viene da sé, cioè non... Vabbè, ma facciamo parlare Nicolete che non ha parlato. No. Smettila di dirlo. non è una cosa nuova, però... non è... No, niente, sì... come ha detto lui, è un modo di aggiornarsi, insomma, sì, non l'ha fatto ancora nessuno, quindi è nuovo. E poi è anche in linea con internet, è un cinema che si aggiorna in un modo forse l'unico possibile adesso, no? Cioè, certo. Uno è il 3D, uno magari è mettersi in pari con questo tipo di idee, che non è male, preferisco questo, no? E comunque già ci stanno progetti del genere ovviamente molto più piccoli di invia filmati, cose varie. Qua aggiunge il fatto ovviamente di metterli insieme per creare questo grande progetto, però comunque l'idea, una cosa vecchia, riaggiornata adesso nuova e messa tutta insieme, però non mi sembra... Comunque... è la prima volta che si fa, sì, no? Comunque è una cosa fatta anche con abbastanza criterio, diciamo, c'è una dichiarazione di Kevin MacDonald, che non è quello dei fast food, che ha detto: Life in a Day è una capsula temporale che racconterà alle generazioni future com'era vivere il 24 luglio 2010. È un esperimento unico di social filmmaking, e qual è il modo migliore per mettere insieme un numero illimitato di footage che coinvolge la comunità mondiale online? Non lo so, signor McDonald, ce lo dica. Ce lo dica lei. Lei che se la fa con Ridley Scott, dai. Allora, due domande. Ridley Scott è produttore. Sì. Cosa produce? Che mandiamo tutta la roba a noi e noi dobbiamo solo montarla. Cosa spende? Due soldi? Vabbè. E poi... Forse userà... Vabbè. E che usa? Ci manda le telecamere a casa? No, dico, userà la sua influenza per portarlo al Sundance Festival, per dargli visibilità, credo per quello, per la distribuzione più che altro. Paga il montatore, dai. Sì, cioè dai, poi produce anche il fratello, quindi tutto sommato non è il male peggiore il fatto che maschera sta voce. Contro ogni puntata una partita per il fratellino di Rino. Non lo so, perché non è una cosa nuova. La seconda domanda è, voi avete parlato di 3D e di questo, cioè pensate che... Sì, vabbè. Lui ammetti... Nicolete ha parlato di... te la sei cercata, Nicolete. Hai parlato di 3D e di questo esperimento, perché è un esperimento. Cioè, questo dovrebbe essere il futuro del cinema? A me sembra solo un esperimento che hanno fatto adesso, appunto, una capsula temporale. Non ho detto il futuro del cinema. Ho detto che per fare qualcosa di nuovo, il cinema, nuovo, tra virgolette, perché appunto il 3D è roba vecchia, fa queste cose, è nuova. Vabbè, ma piuttosto comunque sì, di proporre stesse idee è una cosa diversa, è un... Sì, ma muore qui la cosa, sì, spero di sì, sì, però scusa, è una cosa buona, e anche può essere anche una via per, insomma, dare visibilità a gente che appunto non dovrebbe averla, no? Poi magari non dovrebbe, è un'arma a doppio taglio, no? Se chiunque può mettersi su, abbiamo visto che porcate escono fuori, le conosciamo personalmente alcune, però appunto se tu gli dai anche una portata più ampia, o a tutti poi si sentono in dovere di filmarsi e di sentirsi... Ecco, a proposito di questo esperimento, a me interesserebbe un progetto un po' diverso, cioè viene data a tutti una sceneggiatura e vengono divisi, che ne so, in 10 segmenti il film, e ognuno farà un pezzo di quel film, poi il montatore li unirà tutti i pezzi, cioè viene fuori 10 film diversi ma messi tutti in uno stesso film, a pezzi, quindi l'inizio lo farà di Los Angeles. Però scusa, questa cosa non puoi farla con gente comune, appunto, cioè tanto vale farla con gente professionale, se vuoi fare un esperimento è più interessante farlo come lo stanno facendo adesso. Ah, è comunque interessante. Va bene, facciamolo anche con gente professionale, però. Facciamolo. Vabbè, quello l'hanno fatto, però i film. Vabbè, non come lo dici tu, però i film corali esistono, insomma. Non, no, diciamo... ma io intendo che allora inizia. Sì, ma quello questo l'ho capito, sì. Però dicevo che comunque sarebbe un'evoluzione del film corale come lo conosciamo adesso. I vari. Non lo so, c'era quello sull'11 settembre, ad esempio. Sì, ma lì sono pezzi diversi. Però scusa, io volevo chiederti una cosa. Non è un po' presto per dire morirà lì come cosa? Ma è quello il suo scopo. È una capsula temporale. E la parola sì. Capsula temporale mi fa venire in mente segnali del futuro. Però lasciamo perdere. E quindi c'è cioè, un esperimento. Tra 50 anni uno vedrà e dirà: ah, ecco come si viveva nel 2010. Punto. Sì. Perché farne uno anche domani, anche tra un mese, anche tra un anno? Chi se ne frega? Ma magari anche su altro, verranno già. Forse non sempre sul 24 luglio 2010, ma su una tematica. No, no, ma non necessariamente su una tematica, su un. Non lo so, cioè. Ma scusa, non mi hai detto te l'altro giorno che sono quattro argomenti, cosa vi fa ridere, cosa avete in tasca? Sì, cosa... però riguardano specialmente il 24 luglio, però ad esempio, non lo so... come passerete, come si passava il Capodanno del 2011? Ma no, ma magari come avete vissuto la crisi del secondo decennio del 2000, casomai? Non lo so, cioè... Ma sì, esiste l'home video per quello, esiste i documentari. Ma so, comunque è più curioso vederlo nella gente, cioè, fatto dalla gente comune. Però vabbè, comunque, tempo al tempo, ai posteri alla tua sentenza e noi andiamo avanti, dai. Basta che comunque... tra virgolette gente comune, perché alla fine poi selezioneranno loro chi... Vabbè, sì, certo. Ci sarà sicuramente quello che piace di più, quello che può piacere di più al pubblico. Bisogna vedere quanto sarà genuina come cosa, sì. No? Ma comunque basta che non occupino sale e che siano gratis per noi, che insomma abbiamo fatto noi. Certo. Vabbè, passiamo alla prossima news su cui c'è da divertirsi, perché parliamo di Men in Black 3. Sono iniziate a circolare i primi rumor sulla trama del terzo episodio della saga. Allora, in soldoni, la trama parlerà di un alieno, Yaz, che è una via di mezzo tra Dennis Hopper e Satana, secondo i produttori. Il Dennis Hopper di Easy Rider. Sì, che tra l'altro molto delicato. Sì, molto delicato a citare Dennis Hopper a mezza settimana dalla morte, un però... Un cattivo morente, con il cancro e gli dedica una stella. Che cattiveria. E comunque, questo Yaz viaggerà indietro nel tempo per uccidere K, il personaggio interpretato da Tommy Lee Jones nei primi due episodi. E finalmente, quindi la chiudono qui. Aspetta. Ah, oh, no. Certo. E praticamente questo evento scatenerà una serie di altri eventi collaterali che porteranno alla fine del mondo. Spetterà a Jay, Will Smith, tornare al 1969 per fermare Yaz in coppia con un giovane Kay, K. Possiamo andare alla prossima. Dai. Non hai detto allora, la cosa più bella, che quando andrà nel 69 incontrerà varie celebrità come Yoko Ono, Jimi Hendrix, sì. Andy Warhol, Fidel Castro, eccetera. Lo stavo per dire dopo. Molto probabilmente saranno degli alieni. Karim Abdul-Jabbar anche. Sembra anche che Andy Warhol avrà un ruolo nel film, cioè sarà anche collaborerà con Jay e K. Spettacolare. A me, non vedo l'ora. Nei primi due episodi i vari riferimenti, sì, Michael Jackson è l'alieno, Elvis Presley non è mai morto, è tornato a casa, erano anche simpatici, però sta cosa che qualsiasi personalità di spicco sia un alieno, allora cazzo, cioè, abbiamo proprio poca fiducia nell'umanità. Cioè non valiamo niente se le persone di spicco sono alieni, un po' esagerato. Sono seguiti e riciclano l'unico le idee. Modo per mandare avanti sta saga. Non è sì, che vabbè, era una considerazione così. Comunque ci sono anche altre considerazioni, perché? Allora, Jay tornerà nel 1969, ma i produttori e gli sceneggiatori ancora non sanno come. Quindi hanno già girato il film, praticamente siamo quasi agli sgoccioli delle riprese, però ancora effettivamente non sanno spiegare come riuscire a tornare indietro nel tempo. Questa sceneggiatura. Non c'è, sarà la pagina bianca, beh ci penseremo dopo, ragazzi. No, un metodo ci sarebbe, quello usato da Rodriguez in Planet Terror, bobina mancante, perfetto. Tac, taglio e scena dopo, è già nel passato, e i fan, disibilio per queste robe. Porca troia, ragazzi, manca una bobina. Cos'è una bobina? È un solenoide, no? Comunque, un'altra cosa che ancora non riescono a spiegare gli sceneggiatori è che il giovane K nel 1969 avrà 26 anni, però sarà interpretato da Josh Brolin, che ne ha 42. Fondamentale. Quindi film, questo piacerà un sacco a Sephiroth, lui ama i plot hole, no? È citato anche uno spettatore, sarà invisibilio. No, ma il fatto è che anche qui ci sta scritto tra le note praticamente di questi spoiler, c'è scritto un attimo ve lo leggo: il casting potrebbe cambiare alcuni dettagli dello script. Quindi cioè, è tutto un divenire questa sceneggiatura. Lo sceneggiatore è una cosa nuova, cioè non si è mai visto un film come il progetto di Ridley Scott, cioè, anche questo sì. Potrebbe essere una rivoluzione. E comunque la sceneggiatura è un foglio bianco con scritto quello nero torna indietro nel tempo e va a salvare quello bianco. Attenzione, sorpresa, la sceneggiatura è di Ethan Coen. No, non quel Coen. Esatto, è quello che ha scritto Tropic Thunder. Esatto, sì, è Coen con l'H tra la O e la E, sì. Non è... Ci saranno 2500 Coen a Hollywood, penso. Sì. Tutti ebrei. Sì. Sì. C'era anche la gag di Flanders che trovava i figli sulla decappottabile. Siamo diventati produttori ed ebrei. Questa la tagliamo. Sì, no, questa non la tagliamo. No, ma guarda che qui ci inamichiamo tutti gli ebrei. Ma no, ma perché? Gli vogliamo bene e li salutiamo, tutti i nostri amici di religione. Avete causato tutte le guerre. No, dai, che cattiveria ingiustificata. No, i cineplegici è pro-Israele. Brano. Assolutamente sì, noi siamo i figli dei fiori del 2010, vogliamo bene a tutti e vogliamo la pace. E ci fanno quelli con la barba. No, io me la so fatta ieri, perché quelli con la barba sono. Allora, passiamo alla prossima news, va. Abbiamo già concluso con Men in Black. Non possiamo neanche dire che come tutti i film di Will Smith avrà una prima parte decente e la seconda invece andrà a puttane allegramente. Scadrà nella truzzità. Sì. La rozzezza. La seconda parte Will Smith sarà da solo e dovrà uccidere il suo cane. Sì. Ma poi in ogni film. Non andava così anche con Alla ricerca della felicità. Ah no, ammazzava il figlio. Non è vero. La moglie, per quello ammazzava la moglie, per quello era da solo col figlio. Ammazzava Muccino, dai. Magari sì, comunque, la cosa migliore che possono fare per questo sequel è che appunto Jay va indietro nel tempo negli anni 60, i neri non sono ancora ben visti e non so, un gruppo di razzisti lo falcia e lui non fa in tempo a salvare K e la saga si chiude. Oh, sarebbe bello se torna nel 69 e suona la chitarra così bene che inventa Chuck Berry, solo che è arrivato 10 anni prima Chuck Berry, sarebbe bellissimo. Dai, passiamo alla prossima news, se no qua finiamo dopodomani. La prossima news farà la gioia degli amanti del cinema trash, ma anche no. Ovvero, Don Coscarelli sta cercando di realizzare il sequel del leggendario Baba Hotep, ovvero Baba Nosferatu. Ovviamente non è che dobbiamo spiegare contro chi si batterà Elvis, perché insomma Nosferatu, fate 2 più 2. Nel ruolo di Elvis non tornerà però Bruce Campbell, ma ci sarà Ron Perlman, l'Hellboy cinematografico. Paul Giamatti invece interpreterà il manager di Elvis Presley. Proprio l'attore candidato all'Oscar per Cinderella Man, appunto Paul Giamatti, sta cercando di convincere qualche produttore a produrre questo film. Tuttavia sembra difficile che qualcuno in tempo di crisi sborsi qualche milioncino per il seguito di un film che al botteghino ha incassato solo 1,2 milioni di dollari. E questa, diciamo, è la motivazione che secondo Giamatti impedisce al film di trovare un produttore, però insomma è diventato un cult negli anni e con Long Video penso che abbiano recuperato tutti i soldi della produzione, non lo so. Sì, ma era un film che tutti guardavano solo perché c'era Bruce Campbell. Lo levi, chi lo guarda? Chi se ne frega? Io non lo guarderei un secondo. Quant'è la cifra? Di produzione, dici? E non lo sanno perché effettivamente ancora non sono partite le riprese. Cioè, c'hanno tutto pronto. come fanno ad avere problemi di budget se il primo era girato in palazzine vuote e aveva costato $40? Sì. E già questo è un segno che probabilmente perderà un po' quella vena indipendente che aveva. Il primo non era un trash, questo qua molto probabilmente sarà proprio un trash di quelli pessimi. Esatto, il primo era un film indipendente, poi c'era un regista di film, diciamo, trash, un attore di film trash, però era, insomma, è tratto da un racconto di uno scrittore, insomma, Lansdale non è mica l'ultimo arrivato. Poi no. Il film piace agli amanti del trash, ma insomma è un film discreto. Sì, chiaramente va preso in modo ironico, però è discreto, era molto particolare. Io l'ho visto qualche sera fa e concordo con Darkman quando dice che è un film, effettivamente è un film sulla vecchiaia. Sì, un bel film sulla vecchiaia. Bel film, sì. È profondo in un certo senso. Io personalmente non lo so, non mi ha coinvolto più di tanto, penso, perché, non lo so, le icone americane che erano presenti nel film non le sento così vicine da essere coinvolto da quella vicenda, da un punto di vista comunque goliardico, perché alla fine... Sì, perché, sì, Elvis è proprio un fenomeno circoscritto all'America, sì. Sicuramente. No, cretissimo. Quella è la cosa che gli ho detto io. Ma anche Kennedy. Sì. Io non Kennedy dico. Chi? Precisiamo, prima che... Sta roba di americani, io non lo faccio. Allora, io adesso chiudo tutto quanto e me ne vado. No, vabbè, spieghiamo bene. Allora, innanzitutto io odio tutto il feticismo che gira intorno a Elvis Presley, lo odio. Capisci un cazzo. E lo so, non capirò un cazzo, ma lo odio veramente il feticismo. La trovo l'espressione massima del cattivo gusto dell'umanità. Ma non è quello, cioè, va oltre. Vabbè, io sto a dire, se non sopporto Elvis, effettivamente non mi trovo coinvolto sulla battuta su Elvis, capisci? Cioè, questo è il mio discorso. Beh, quello sì, però insomma, è solo un mezzo Elvis, no? Sì, per carità, io sto parlando... Anche le mummie odi, cioè, pure una mummia. Anche la cosa bella è l'imitazione, il fatto che, insomma, un attore come Campbell che... lo ricordiamo per delle boiate, per quanto piacevoli, ha fatto un'interpretazione che, insomma, notevole. Sì, lui odia Elvis, lo odia e non lo posso sì, anche per vie traverse, anche se interpretato da uomini grassi. Appunto, quello che ti sto dicendo, cioè, non amo particolarmente il personaggio, ammetto che sia un bel film e che l'interpretazione di Bruce Campbell sia stata grandiosa, sebbene l'abbia visto doppiato in italiano e il Monco mi ha detto che poi fa un lavoro sulla voce di Elvis straordinario, vabbè. Anche la mimica comunque avrei... Sì, in ogni caso comunque è una buonissima interpretazione, però io dico, non mi ha coinvolto più di tanto proprio per questo, perché non è un personaggio che non amo e neanche sopporto più di tanto. Già ad esempio le scenette, cioè... Tutto quello che riguarda invece l'attore di colore che interpreta Kennedy è meraviglioso. L'attore di colore. Cioè, Ossie Davis è diventato l'attore di colore. Se vuoi dico il membro del Ku Klux Klan che interpreta Kennedy, ma non è un membro del Ku Klux Klan, è un attore di colore. Davis. Vabbè, non è okay. Uno che si è intrufolato nel set, è il sindaco, è diventato Spielberg, no? Ok, Ossie Davis che interpreta Kennedy è meraviglioso, tutto quello che riguarda Ossie Davis. L'attore di colore. Avete rotto le palle, lo dico davanti a tutti, lo dichiaro e basta. No, vabbè, ma è come dire in Dark Knight c'è quel negro che fa Lucius Fox. È Nelson Mandela. appunto, guarda un po'. Vabbè ragazzi, che vi devo dire, comunque a me è piaciuto come film, non mi ha coinvolto più di tanto, almeno per quanto riguarda la componente goliardica, eccitazionista e tutto quanto, e... però mi è piaciuto, sì, a differenza ad esempio di Un Utente, sempre il famoso Bitsu, che sul forum di Every Eye dice che... Vabbè, ma è Un Utente che ha risposto alla nostra richiesta di aiuto e ha detto che Baba Hotep è un film che gli fa cagare, è una merda, il libro presumibilmente sarà molto carino, ma il film è totalmente inutile, mi ha ricordato Soffocare, tratto dal libro di Polanyk. In tutti e due i casi... Polanyk si legge, non rompere i coglioni perché si legge Polanyk, l'ho visto. Oh. In tutti e due i casi, zero verve, sensazione di approssimazione e fatto per forza. Unica nota positiva è sempre mitico Asher, reparto ferramenta. Capisci un cazzo. Ok, liquidiamolo così. No, va bene, non tagliarlo. E niente, che film ha visto? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, non lo so. Cioè... È molto, sì, chiaramente non è un film che ha la pretesa di essere... insomma, anche paro al racconto, non è un libro, sono 30 pagine. È preciso, quindi va bene, può essere un po' sterile, ma non lo è, perché appunto, come hai detto anche tu, è un'interpretazione sentita, è un bel film, vabbè. Sì. Insomma, cioè, il fatto stesso comunque che ci sono due vecchietti sulla scena, uno che crede di essere Elvis e uno che crede di essere Kennedy, dovrebbe lasciare intendere che non è un film che bisogna prendere per così sul serio. No, appunto, ma il bello è quello, tu lo vedi leggendo la trama. È una mummia, cioè, oltretutto. Appunto. Cioè, leggi la trama, leggi Elvis e un Kennedy di colore in un ospizio vogliono bloccare una mummia che succhia le anime. Sì. Tu lo vedi come una stronzata, invece poi ti trovi davanti anche un... insomma, una bella riflessione sulla vecchiaia, sul modo di invecchiare. Sì. È bello per quello, no? Sì. Poi non so che film abbia visto lui. Forse l'ha visto in italiano, non lo so. No, no, no, in italiano non è così brutto, ve lo assicuro. No, perde un po'... sicuramente, però vabbè. Vabbè, comunque, anche se l'ha visto in italiano, cioè... sì, non lo liquiderei così facilmente. Appunto. Caso, ma il seguito sarebbe ancora diretto da Foscarelli? Sì, è comunque lui che sta cercando, insieme a Giamatti, i finanziamenti per girarlo, quindi in ogni caso... $40. Sì. La paghetta. È una nota positiva. Sì. Peccato però che, appunto, si perde Bruce Campbell e il film non sarà tratto da... un racconto di Lansdale, quindi perde le due componenti principali. Sì. Beh, secondo me è anche una terza, perché in ogni caso About App si legge moltissimo sul lavoro di coppia con Ossie Davis, e comunque è grandioso, quindi... Insomma, in generale poi è un film indipendente, una produzione che azzecchi e basta, cioè, perché spremere un marchio? Solo perché tra i fan del trash va? È brutto, è una cosa di cattivo gusto. Certo. Per una volta che fanno... una cosa che funziona, piace a tutti, la devono spremere per forza, deve diventare un marchio. Tutti tranne Blitzer. Meno male, infatti, è una cosa buona. Non so perché Campbell non ci sia, però spero che abbia rinunciato, perché così guadagnerebbe parecchi punti, non, oltre a quelli che già... Perché se ha rinunciato vuol dire che ha capito che... Sì, ma anche un sequel comunque, mo, francamente, non è che se ne senta il bisogno. Cioè, è finito, il film è così, non no, capisco appunto, perché. Quello è un altro motivo, certo. Però il fatto che lui non ci sia, secondo me, è un segno. Anche lui ha detto, no, non si può fare un seguito. Non avrebbe senso. E Luca, ti volevo fare una domanda. Tu, quando stiamo redigendo la scaletta, comunque hai gioito alla notizia di Babbo Nosferatu, ma tu già hai gioito prima di sapere queste news, o comunque già le sapevi? No, non mi ero accorto che non c'erano questi vari pezzi, si sono persi i pezzi del primo. Avevo capito male. Ok. Passiamo alla prossima news, o qualcun altro vuole dire qualcosa? Passiamo alla prossima news. Allora, questa news l'abbiamo messa perché ci faceva ride, diciamolo chiaramente. Sulla scaletta abbiamo messo pure lo smile con la bocca a forma di D. Il film sui Lego! Invece, quando ho letto meglio la news e ho letto l'intervista agli autori, non lo so se, diciamo, è da prendere proprio in tono così scherzoso. Comunque, leggiamo la news, allora... Dopo aver invaso con prepotenza il mondo dei videogiochi, i celeberrimi mattoncini Lego si preparano ad approdare al cinema con un film prodotto niente poco di meno che dalla Warner Bros. E diretto dagli scrittori e registi di Piovono Polpette, Chris Miller e Phil Lord. In un'intervista i due hanno detto di aver tratto l'ispirazione dai numerosi filmati in rete realizzati con i coloratissimi mattoncini e di aver scritto un trattamento completamente folle di 40 pagine, ricco di previsualizzazioni che hanno mandato in brodo di giuggere i produttori. Ancora non è chiaro come verrà realizzato il film, se in live action o in altro modo, diciamo. Comunque, gli ambienti saranno realizzati interamente con i Lego e ci saranno gli omini Lego sulla scena. Quindi quasi sicuramente sarà un film girato tutto in stop motion, con anche gli effetti speciali che saranno realizzati dai Lego animati. Non lo so, l'abbiamo presa a ride, però effettivamente potrebbe essere interessante, perché i filmati che ci sono su internet, su YouTube, di queste parodie fatte con i mattoncini stop motion, comunque sono interessanti, sono anche simpatici. Voi che ne pensate? Se un mucchio di minchioni va in brodo di giuggiole per Toy Story, figuriamoci per i Lego. Ecco sai, sì. Sì, questa, no, è la, questa è la stronzata di mezzanotte e 5. No, aspetta. Mezzanotte e 1, aspetta. Tutti hanno giocato con gli giocattoli. E quindi Toy Story, il successo è su quello. Tutti hanno giocato con i Lego. Sarà la stessa roba. Puoi fare quel che ti pare, tutti andranno a vedere un film sui Lego, sì. Anche quelli che dicono divertente, andiamo, quindi non so, possono fare quello che gli pare, l'incasso mi sa che sarà secco. Sì, però io dico un'altra cosa, il fatto che, non lo so, a me mi sembra tanto un'idea da videoclipparo fatto bene, diciamo, da un Gondrio, da uno Jones, comunque, il fatto di fare un film in stop motion con i Lego in quel modo, cioè, non è tanto malvagia l'idea, da un punto di vista qualitativo, dico, non da un punto di vista di box office e cose del genere. È stato già fatto, tutti quelli su internet. Ho capito, ma qui si parla di un lungometraggio con tutti i crismi. Sì, boh, ma li hai visti queste opere su internet in stop motion? Sì, ho visto, ad esempio ci stava quella di riinterpretavano la testata di Zidane a Materazzi, è divertentissima, è fatta veramente bene. È divertente anche perché dura 30 secondi, forse sì. 2 ore del film e così non le reggi però. Vabbè, ma appunto se comunque metti dei registi che sono capaci di dire tutto in pochi frangenti, forse non esce per così male. Boh. Ricordiamo, sono i registi di Piovono Polpette. Non so, io non l'ho visto Piovono Polpette, voi l'avete visto? Io, però secondo me è pregiudizievole. Però non ne hanno parlato tanto male di Piovono Polpette. Tra l'altro, visto che ne parlavamo prima, l'ha doppiato Bruce Campbell, Piovono Polpette. Sì, sì, del paese. Tu l'hai visto, Luca? No. Vabbè, comunque non ne parlano così male di Piovono Polpette, quindi... Vabbè, era una battuta, non so, non l'ho visto neanch'io, quindi... Ah. Tra l'altro, però, non è che hanno fatto queste grandi opere, quindi insomma è un film già controverso. Sì. Sono dubbioso, nel senso, non sono così sicuro come te. Ecco. Sì, certo. No, io non è che sono sicuro, no, però. Cioè, curioso, sono un po' più pessimista. Ecco. Ah. Cioè, certo, se fosse un regista un po' più insomma, stilisticamente più audace, magari mi potrebbe incuriosire, ma appunto i contenuti, il resto, insomma. I Lego sono una cosa che anche nei videogiochi, se li hai citati. Sì. Servono a interpretare altro, no? Anche il bambino, certo, che ci gioca ci costruiva delle storie, ma adesso sono diventati il mezzo per rifare Star Wars, rifare Indiana Jones, una storia con le Lego, non so, cioè potrebbe essere un film normale con le Lego al posto degli attori, quindi mi chiedo, cioè, è interessante oltre alla questione estetica? Per me no. Non lo so, bisognerà vedere, e comunque anche se fosse interessante anche solo da quel punto di vista sarebbe già un risultato il fatto che, sì, comunque, sì, certo, non so, in mezzo ai puffi, in mezzo a tutte queste cazzate, sì, che stanno a fare, effettivamente mi sembra una cosa abbastanza interessante. Io non facciamo una precisazione, non è che sono fiducioso o cose del genere, semplicemente avevamo preso la news un po' come Men in Black 3, famose e durisate, però effettivamente letta la news, non lo so, comunque un po' mi ha stuzzicato. Tra l'altro c'è una citazione di Chris Miller, uno dei due che gestiranno il progetto, che dice: sarà un film fatto come quei filmati che troviamo in rete, con la stessa qualità tattile. Sembrano fatti in casa, permeano creatività e mi ricordano quanto è bella l'animazione quando sembra fatta a mano. Trasmetteremo in maniera super divertente il messaggio che la creatività è una cosa che gli adulti dimenticano facilmente, ma che può essere imparata nuovamente. Quindi, non lo so, comunque... Questo riassume un po' tutto il progetto e tutto il resto. Nessuno ha nient'altro da dire. Vabbè, no? Sì. Stiamo anche aspettando il film su Battaglia Navale, che quello sarà forse addirittura più interessante, però... Citando Atlas, no? Monopoli e il Risico, abbiamo già un film sull'economia e un film sulla guerra pronti. Sì. L'industria hollywoodiana ha sempre giocato su questo, non, sì, è uno scandalo. Non c'è niente di scandaloso. Se ne... Vabbè, passiamo. So, i Lego può uscire o un Toy Story o un Small Soldier. Era Small Soldier? Sì. Mi si chiamava? Sì, sì. Soldatini. Ma scusa, se fanno un, non lo so, un 500 giorni insieme con i Lego... Chi se ne frega, gli attori per fare quelle robe lì? Faranno una cosa. Non dovrebbero farle quelle robe lì, però. Perché no? Perché hanno gli attori. Cioè, sì, no, ho capito che hanno gli attori, però se fanno una cosa. Sarebbe interessante, ma comunque già te l'ha detto quello nell'intervista, che cerca di puntare sulla creatività. Cioè, si vede che un film è un target, cioè, punta un target principalmente di bambini. Non penso che sarà una storia seria fatta con i Lego. Non capisco il nesso creatività bambini, però. Vabbè, si vede come parlava, si capisce come parlava. No, vabbè, se vuoi fare un film tipo 500 giorni insieme lo fai con gli scusa, attori. Scusa un attimo, sì. Però anche Fantastic Mr. Fox è un film creativissimo, però non mi sembra un film strettamente per bambini. È un film in stop motion, in animazione, però non è assolutamente un film per bambini. No. Però quindi... non dico che... infatti lui non ha detto che fa un film per bambini. Dalle sue parole, da quello che hai letto, a me mi ha dato questa impressione che comunque il film che uscirà sarà... una storia d'avventura con questi Lego, poi non so come li mischieranno, come li metteranno, poi non significa che è brutto, però ecco, non penso che sarà una roba da 500 giorni insieme con, per fortuna, con i Lego. Appunto, faranno una cosa alla Toy Story dove sono dei Lego principalmente, non dei personaggi. Vabbè, questo aspettiamo di... Avremo smentito. Di vedere almeno un trailer, sì, ma smentiti clamorosamente, è tutt'altro proprio. Sì, arriva la sera per dire che siamo poco intelligenti. Passiamo ad altro, Luca, dai, dici questa news allora, che ti è particolarmente cara. Eh sì, siamo stati in un ospizio, siamo stati nel mondo dei Lego, siamo tornati indietro nel 69 con Men in Black, adesso facciamo un salto nel futuro, cioè alla stagione cinematografica che ci propone Medusa per la stagione autunnale e anche invernale. Cioè Medusa ha rilasciato il listino 2010-2011 con i titoli acquistati che vedremo a breve. Sono 15 titoli italiani che sono costati la bellezza di 90 milioni, no scusate, 70 milioni e 13 film stranieri che sono costati solamente 20 milioni. Adesso non capisco perché c'è questa differenza, però vabbè, ce lo spiegheranno. A cui si aggiungono altri 20 milioni che ha speso al Sempre Medusa per la promozione e la pubblicità. Allora, la lista è davvero molto succosa. Innanzitutto ci saranno due opere in 3D. Mancano opere prime, però fa niente. Allora, vediamo un po'. Opere straniere di un certo peso, c'è Somewhere di Sofia Coppola, la regista, la figlia di quel regista. E poi c'è, beh, il film delle Winx in 3D, finalmente, e frenate i bollori perché è un film delle Winx in 3D, ma è italiano, cioè il regista sarà Iginio Straffi, che tra l'altro mi sa che è pure il creatore delle Winx, quindi abbiamo fedele, pure al cartone, garanzia di qualità. Figurati se facciano un film d'animazione italiano, il primo su un prodotto non italiano. Poi vabbè, ci sarà il 41esimo film della sua carriera di Woody Allen, che uscirà il 3 dicembre, presentato a Cannes poco tempo fa. Incontrerai uno sconosciuto alto e bruno, con Anthony Hopkins, Banderas, là ormai dappertutto, tra un po' la vedremo dappertutto, Freida Pinto del Milionario e sì. Naomi Watts. Poi finalmente uscirà in Italia... dopo che negli Stati Uniti è uscito da, mi sembra quasi un anno, Stanno tutti bene, il remake del film di Tornatore con De Niro, di italiani, ecco qui l'Italia si dimostra ancora essere il meglio per la produzione, ci sarà innanzitutto la trasposizione del romanzo La solitudine dei numeri primi, questo sembra l'apice di tutto quello che vedremo. Ci ha messo parecchio a uscire, una speciale, sì, visto che il libro ha avuto successo anni fa, ci ha messo anche troppo. Sì, il premio Strega del 2007, tipo del 2008. Appunto, queste cose le spremono sull'onda, sì. No? Ha venduto il libro, pam. Dice sì. No. Vabbè, sarà di Saverio Costanzo con Alvar Horvacher, che ormai è in tutte le produzioni di punta italiane c'è sempre. Sì. E Isabella Rossellini che ritorna ha lasciato disoccupata Margherita Bui ormai, l'ha sostituita appieno. Sempre per l'Italia, sarà il grande ritorno, grande tra virgolette ritorno tra virgolette di Besson tra virgolette con Miss Adele e l'enigma del faraone. Non so assolutamente cosa sia, ma c'è Matteo Amalric che non è mai un male vederlo. Tra l'altro, scusa, piccola parentesi, c'è la Nomad Film, una casa indipendente italiana che distribuirà il film di Amalric Tournée, quello che ha vinto a Cannes, lo distribuirà quest'autunno in Italia, quindi piccola news interessante e positiva in mezzo al mare di merda. Vai avanti. Sì, Amalric è sempre interessante, qualsiasi cosa faccia. Poi, le idee in Italia sappiamo tutti come sprizzano di qui e di là, quindi ci sarà il remake di Benvenuti al Nord, in italiano sarà Benvenuti al Sud, con Claudio Biso e la Finocchiaro. Non lasciamo commenti. Poi, ovviamente, tornerà il cinema di Massimo Boldi, cioè Bollino Qualità, con A Natale mi sposo. Questa volta il titolo, non lo so, non si capisce bene cosa succederà nel film. Il ritorno, purtroppo, è sotto Natale del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che sta morendo sempre di più sotto i nostri occhi con quelle pubblicità orribili, che è la banda dei Babbi Natali, che idea, chissà. Poi un film bellissimo, solo a leggere il cast, Femmine contro maschi, sarà la classica cagata episodi, con Claudio Pisio, Sol Frizzi, Nancy Brilli, Luciana Di Tizzetto, Serena Utieri e Ficarra e Picone. Una piccola curiosità, nel chat dell'ultimo mese, che praticamente ci sono 8.000 pagine solo di foto, e la chiamano critica cinematografica, c'è anche un servizio su Femmine contro maschi, in cui ovviamente non è che ci sta un po' di testo, ci stanno solo foto di questo nuovo film di Brizzi. Prego. Foto mute, quindi... Sì. Neanche... Poi vediamo, qualcosa di interessante, c'è le fan italiane di Pierfrancesco Favino, lo potranno rivedere in La vita facile. Sì. Comunque, scusa, ci sono dei film in lingua straniera che hai tralasciato e secondo me possono essere interessanti. Allora, ero sull'italiano. Ah, l'hai detto prima, quelli stranieri. Eh sì, ma sono partito di lì e poi li ho visti dopo. Va bene, ok. Non so, sì, se vuoi dirli anche te. Io ho visto Red di Robert Schwenke, sì, che è interessante perché ha un cast di primo ordine con Bruce Willis, ahimè, Morgan Freeman, John Malkovich e Helen Mirren, cioè tutti attori quasi da Oscar. Ah, c'era The Next Three Days, che è il nuovo film di Polakis, che non so, i precedenti due sono piaciuti? Hai visto Nella Valle della? Sì. È piaciuto? Sì. Audace. Sì. E poi c'è anche, interessante, ho visto adesso, Last Night di Massi Tajedin, che è la sceneggiatrice di The Jacket, che non era male come idea. Ah. C'è ancora Keira Knightley, stranamente, poi vabbè, Sam Worthington. Ma è un film in costume, ci chiediamo se c'è Keira Knightley. Probabile, sì. Non so, la regista credo sia il secondo film, però ha scritto quello The Jacket. Che, cioè... La risposta è Sam Worthington, quindi appunto, no, non sarà un film in costume. No, ma poi c'è Eva Mendes, esatto. Eva Mendes che è il culmine della volgarità, in costume non credo proprio. Esatto. È un sacco della spazzatura. Lei sarà in costume da bike, sarà. Nuda. E... Sì. Una conciatura ottocentesca, però. Non abbiamo finito con le mega produzioni italiane, perché tornerà fortunatamente nel 2011, ma subito appena iniziato, quindi sarà un anno funesto, Checco Zalone con un nuovo film. Che bella giornata. Ah. Mi hai rovinato la nottata. No, invece... bello, quando uno parla c'è sotto quello che sbadiglia. Sì. No, vedevo che c'erano due progetti interessanti di due attori che saranno registi. Il film di Jodie Foster, The Beaver, e quello di Tom Hanks, Larry Crowney. Con Julia Roberts, quindi sarà costato tantissimo. E invece The Beaver è con Mel Gibson. E allora sarà poi in fondo ci sono dei film senza titolo anche, no? Ce n'è un altro di Ficarra e Picone, uno di Pieraccioni e uno di Sorrentino con Sean Penn, che non è quello... che avevano già annunciato. Sì, c'è il nome, infatti, This Might Be The Place. Ah, già, sì, scusa. No, non era in grassetto, non lo leggevo. Sì, c'è anche Passengers. Tempo fa e sembrava molto interessante. Sì, c'è anche Passengers con Keanu Reeves. Di Muccino, poi. Che ci riprova col cinema americano. È ancora gli anni. Keanu Reeves, siamo con te, tirati su. Ti vogliamo tutti bene. E in mezzo... Guardate, vi è sfuggito in mezzo Sex 3D di Fausto Brizzi. Madonna, è minaccioso. Sembra quelle commedie erotiche tipo Sesso Matto, da quello che faceva Dino Risi una volta. No, che la... si è aggiornata ed è in 3D. Siamo all'avanguardia anche nelle commedie erotiche. Come si chiama quella dello Zen? Quel porno che piaceva a Cello. Sex and Zen. Sex and Sex Zen. Zen. Ma sai che ho scoperto che i fan del cinema asiatico lo giudicano roba di classe, quindi evidentemente... Certo, mangiano la merda quelli. non so se in quel film succeda, però... Dai, facciamoci altri nemici, su. Vabbè. Comunque, un altro filmone, sempre italiano, perché l'Italia è primeggia, Baciato dalla fortuna, con Salemme, Gassman e Asia Argento, tutti nello stesso pacchetto. E anche Dario Bandiera, che è quello che rifà i versi a Maurizio Costanzo, non so se ve lo ricordate. Wow. Che bello. Che bei momenti. Hai saltato anche Se sei così ti dico sì, di Eugenio Capaccio. Con Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez. Vabbè, aspetta, apriamo una parentesi su Belen Rodriguez. Per me, a parte le attrici di professione, è una delle migliori che c'è in Italia. L'ho detto. Ah. Avete visto lo spot della team? No, voglio dire, avete visto? Meraviglioso, sì. Riesce a far sfigurare De Sica. Cioè, ride delle battute di De Sica, quindi il tuo discorso va a puttane. Cioè... No, appunto, è un'attrice bravissima, ride delle sue battute. Chi è che ride? Uno che fa finta, e lei fa finta benissimo. Comunque, ha tutti i requisiti per diventare attrice in Italia. Sì, sì, sì. E Margherita Boi è disoccupata, dai. Che io una botta gli darei. Comunque, ritorna al cinema anche... quindi ce l'avremo nell'arco di 4-5 mesi due volte, perché tornerà Nicolas Cage, sempre più nei guai col fisco, con Season of the Witch. Madonna. Dove ci sarà ancora Ron Perlman, già ne abbiamo parlato per Babbo Nosferatu. Ma scusa, non aveva fatto un film con lo stregone, mo Witch? Sì, l'apprendista stregone. Sono due diversi. Sì, ma sempre lo stesso, boh, madonna che palle. Non è importante, lui deve pagare i debiti. Ho capito, facciamo una colletta e basta. Lui è parente, ha detto, perché Coppola continua a fare film e continuo anche io, che cazzo. C'è anche qualcosa per rimpiantino di capelli, almeno non deve usare extension, dai. Studio Ghibli ha rilasciato il trailer di The Borrower Arrietty, non lo so come si legge, Arrietty, non lo so, il nuovo film di Hiromasa Yonebayashi, un animatore del Castello Errante di Aule e La Città Incantata, film che uscirà il 17 luglio, secondo quanto detto da Darkman, quindi non sappiamo se è attendibile. Lo dice Wikipedia. Ok, quindi se dice Wikipedia c'ha ragione. Il film... quella americana però, no, quella... E allora c'ha sicuramente ragione. Il film è tratto da un romanzo di Mary Norton ed è adattato per lo schermo dal maestro Hayao Miyazaki, che da anni aveva intenzione di riadattare questo romanzo. Allora, il trailer è molto breve, non so se l'avete visto, avete dato un'occhiata. Sì. Comunque ci si può fare un'idea sul look generale del film, che di prima acchito... Il titolo? The Borrower Arrietty. Che, vabbè, di prima acchito comunque mi sembra che ci sarà un ritorno alle atmosfere pre-Ponio, che era un po' più spensierato, un po' così, un po' più sbarazzino. Comunque, vabbè... Noi vi abbiamo dato questa news per fare un po' quello che abbiamo fatto con David Fincher nella puntata precedente, ovvero per avere l'opportunità di parlare di Hayao Miyazaki e di fare anche qualche digressione sulla produzione dello studio Ghibli in generale. Vabbè, partiamo subito in quinta. Il vostro preferito di Miyazaki? Darkman. Un'opera minore, Totoro. C'è stata questa discussione con Darkman e con il Monco sul fatto che Totoro sia un'opera minore. Luca, dici perché dovrebbe essere un'opera minore Totoro? Allora, innanzitutto Darkman sosteneva che Totoro non è un'opera minore perché, insomma, Totoro è il simbolo della Ghibli. Che no, la cosa non solo... fa una grinza, Non solo per quello, comunque avanti. Vabbè. È un'opera minore in confronto alle altre di Miyazaki, tipo La città incantata o Castello errante di Hall, perché si basa tutto su quei personaggi che piacciono tanto alle ragazzine, che tutti i paciocchi e tutto, come Totoro e il gatto Bus, che sì, insomma, belli, ma dove sta la profondità del personaggio o della storia? È una storia abbastanza semplice di queste due sorelle, Satsuki e Mei, se non ricordo male. Sì, sì. Che hanno la madre che sta male e si sono trasferiti con la famiglia per stare più vicino alla madre, no? Sì. E non ha la profondità che ha una città incantata, seppur, come dicevi giustamente, Darkman, sono entrambi film d'animazione per bambini, ma insomma la tematiche di Città Incantata in Company sono più serie. Cioè, la Città Incantata è un percorso di maturazione di Chihiro, o anche, se non mi ricordo, la protagonista di Owl, come si chiamava? Metto in difficoltà, vabbè, comunque aspetta, lo cerco subito. Ma lo stavo guardando, non me lo ricordo, però solo Owl, la ragazza che è diventata vecchia. Sì, Sophie, esatto, Sophie. Sì, ma quello che dice è giusto, cioè il fatto comunque che sono opere più complesse, perché ci sono anche più personaggi in gioco, più cioè più location, comunque c'è proprio un'avventura più lunga, è normale che sono più complesse, però opere come Totoro, pronuncialo come ti pare, o Ponyo. No, si pronuncia Totoro, Ponyo non c'è. No, o Ponyo, dico. Sì, era una battuta perfida, dai, vai. O Ponyo, che sono opere, non è che sono opere minori, sono semplicemente opere più leggere, più semplici, proprio perché hanno meno personaggi in gioco, una storia più semplice, appunto. Però scusa, è proprio quello che intendiamo dire noi, cioè. Una cosa comunque che parte già da Miyazaki, non è che Miyazaki dice adesso faccio un film minore, no, adesso faccio un film indirizzato verso quel tipo di risultato, che non deve essere una città incantata, un castello errante, ma deve essere qualcos'altro. Abbiamo una visione diversa sul termine minori. Quando noi diciamo minori è proprio quello che hai detto tu, nel senso che comunque sono film con tematiche più leggere, con personaggi più pacioccosi, meno complessi da un punto di vista visivo, per questo sono opere minori. Visivo no. Sì. Visivo sì. Visivo no, perché sì. Poi l'ultima che è uscito per... Comunque c'è una... Sì, ma in ogni caso... Il lavoro più curato e il lavoro più bello di quelli che ha fatto... Più curato, ma meno ricco di dettagli, ad esempio, di un castello di Alta... Sì, sì, però quando vedi quegli sfondi pastellosi che non stanno in nessun altro film di Miyazaki... Cioè... Vabbè, ma non c'è il nesso logico complesso uguale bello, non è quello il punto. Il punto è che comunque è meno complesso di un La città incantata. Sì, è meno complesso, ma la complessità non è che fa... Non è per forza un... chissà che pregio. Sì, ma infatti non è che... Anche Duel, ad esempio, di Spielberg, è un'opera minore rispetto a, non lo so, a uno Schindler o, non lo so, a Incontri a vicenda del terzo tipo. Ma non significa strettamente che sia meglio o peggio. Forse Duel è... Il... è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti, praticamente. Quando nomini Miyazaki, ti nominano quel coso. È uscito da tempo. E comunque non è vero, perché La città incantata è quello che viene continuamente nominato ovunque, anche nella classifica di Empire, che ha vinto l'Oscar. E vabbè, ho capito, però comunque cioè, per visibilità è forse quello più visibile, quello più noto, in ogni caso. Ma non penso che sia quello più noto. Aspetta, per concludere, film minore, sì. Totoro e Ponyo già meno. Sono film che tu li guardi e spegni il cervello. Cioè, sono divertenti, spensierati. Dico, c'hai ragione su questo, ma questo fatto dello spegnere il cervello non è per forza una cosa da vedere in modo negativo. Ma infatti, ma scusa, detto? Opera minore non è negativo. Cioè, opera minore, perché non puoi semplicemente chiamarle opere, non lo so, opere blu, opere rosse, non lo so, opere piccole e grandi, ma chiamale in un altro, non lo so, dai un altro... Cioè, è come le persone di bassa statura, no, non chiamateci nani, o come gli spazzini, no, diversamente alti, operatore ecologico, ma è la stessa roba, chi se ne frega, noi non usiamo la parola film minore negativamente, solo che appunto, è importante, se adesso a me uno mi dice quale film mi consigli per iniziare Miyazaki, non gli consiglio subito La città incantata, quello glielo consiglierò dopo in seguito, almeno dal mio punto di vista. Perché? Perché intanto inizia con uno dei suoi primi film, cioè quello che magari è stato il simbolo dello studio Ghibli, la nascita di tutto. O sì, magari addirittura qualcuno ancora prima. Il discorso è, se vuoi conoscere un regista, parti dagli inizi, non tu dici, cioè il tuo discorso è questo, Totoro è meglio della città incantata solo perché è arrivato prima. Meglio, non perché è meglio. Io non ho detto che è meglio, io ho detto semplicemente che sono diversi, due opere diverse, che è inutile stare eccessivamente a fare minore o maggiore, comunque questo è un discorso che alla fine però cioè non ha molto senso. Comunque vabbè, dai, direi di andare avanti perché sennò veramente siamo tre ore a discutere del fatto di opera minore o opera maggiore. Sì, stiamo qui tre ore quando poi abbiamo ragione noi. Comunque, sono d'accordo con Luca quando diceva che effettivamente in Totoro ancora c'è un abbozzo delle tematiche che verranno affrontate nella filmografia di Miyazaki successivamente. Però quando io parlavo di lavoro, appunto, sì, cioè i personaggi sono... Il fatto di trovarsi un lavoro, il fatto di crescere, rapporti e tutto... è molto più profondo di Satsuki e Mei che passano tutto il giorno a fare le deficienti di qui e di là, una si perde, poi aspettano il padre che arriva la sera col bus. Sì, dov'è l'evoluzione? Non c'è niente. Chihiro invece passa da essere una bambina stupida che non vuole mai essere staccata dai genitori, che ha paura di tutto, che si lamenta di essere stata trasferita dalla città che amava e ha perso tutti gli amici, a una ragazzina matura che ha lavorato, che è diventata una signorina, cosa che prima non era, ha conosciuto anche l'amore, platonico, però è sempre amore, cosa che Totoro non ha, mentre Ponyo è già un po' più superiore, sempre non in maniera né positiva né negativa, è superiore nel senso che queste cose le ha già di più, anche la tematica ecologista, sì, in Totoro c'è, ma è abbozzata, appunto, sì. Comunque, non è il film d'esordio di Miyazaki, Totoro, vero? No, dico lo studio Ghibli. Sì. Che poi non è neanche, forse anche qualcos'altro prima che hanno fatto... No, anche i precedenti di Miyazaki sono prodotti dallo studio Ghibli. Sì. Nausicaa e se non sbaglio, l'altro era... La Piuta. Sì, La Piuta. Chi l'ha visti questi due? Io. Sì, dai, parlacene un po'. Vabbè, innanzitutto, come si chiama, Nausicaa non è proprio Studio Ghibli, cioè lo Studio Ghibli è nato, mi sembra, l'anno dopo, quindi è fuori, però alla fine lo considerano come la prima opera lo stesso, sì. Fa niente. Sono due opere molto simili, sia per i temi che per lo stile, il disegno. Si vedono già, fin dai prime opere, gli argomenti più cari a Miyazaki, che sono il pacifismo e l'ecologismo, purtroppo sono ancora un po', a livello di sceneggiatura, un po' incasinati, un po' grezzi. E stessa cosa si può dire per il disegno, anche se La Piuta è già un livello, insomma, è già migliorato, è la seconda opera. Queste prime opere risentono ancora del periodo di Lupin, che i personaggi e la fluidità dei movimenti è ancora, insomma, sembra di vedere un'avventura di Lupin senza Lupin, Jigen and Company. Si farà già dal, il terzo, mi sembra che sia appunto Totoro, sì, escludendo il fiuto di Sherlock Holmes, opera minorissima questa. Sì. È pure il coso di Cagliostro, ha fatto il castello di Cagliostro, sì, ma è prima e non è Ghibli. Dico sì, lo so, però tu lo so che non è prima, non è Ghibli, che è prima e non è Ghibli, però non è il terzo film, quindi Totoro. Vabbè, Totoro il disegno è già migliore, quindi insomma Miyazaki è sempre migliorato, fino ai livelli che vediamo adesso che sono impressionanti, sì. È tutta artigianale però. Sì. No, volevo tirare fuori la storia dell'artigianale perché ci hanno già bacchettato, no, su Facebook, di non dire... solita da fanboy di Miyazaki che lui è tutto artigianale mentre la Pixar però è comunque la verità, è bello, sì, forse sì. Anche per quello il fatto di riuscire a mettere tutti quei dettagli in un disegno comunque artigianale, una cura così maniacale, è comunque un pregio in ogni caso. Risultati come Ponyo che Sì. Visivamente è fantastico. Ma io, più che Ponyo, ad esempio, io pensavo a Porco Rosso, che, in cui veramente l'Italia è rappresentata in una maniera veramente suggestiva, diciamo, realistica non nel senso di realismo, fotorealismo, diciamo, ma realistica da un punto di vista di aver colto l'italianità. Come scena volevo portare quella in cui si vede una sorta di ufficio di Baba in una città incantata, e sia l'ufficio che il corridoio e tutte le parti che portano al suo ufficio, e lì il livello di particolari è impressionante. Sì. Poi si pensa che è tutto a mano, è una cosa, ma anche insomma, tutte le terme, qualcosa sì. di maestoso. La sì, ma lì, lì in quelle scene lì con Yubaba fa tutti i tappeti e la roba della tappezzeria sulle pareti, che è impressionante, visto che insomma l'opera è asiatica e gli asiatici ce ne mettono a fare tutte quelle robe lì, le greche, cazzate varie, e lui le ha rifatte tutte. È una cosa impressionante, fa davvero, è una gioia per gli occhi. E invece, Luca, il tuo di preferito? La città incantata, anche perché credo che sia l'unico film d'animazione che abbia vinto l'Orso di Berlino, sì. l'Orso d'Oro sì, Berlino, sì. In categoria film generale, non film d'animazione, quindi... Sì. E poi Porco Rosso è, sì, Porco Rosso è splendido. E tra l'altro è paradossale che sia ambientato in Italia, è una storia italianissima, e in Italia non è mai arrivato. Anzi, sì. arriverà quando? Ottobre? Sì, c'è la news recente che Lucky Red pubblicherà nelle sale, no, distribuirà nelle sale Porco Rosso questo autunno. Ottima, sì, ottima news. Beh, l'importante è che poi arrivi in DVD, quello è fondamentale. Sono solo 18 anni di ritardo, mentre Totoro erano addirittura 20. Sì. Ma sì, stiamo migliorando. Sì, sì. Il fatto che comunque lo facciano è già positivo di suo. Sì, appunto, però come diceva lui, le 10 sale, l'importante è che siano abbastanza sale e non siano a un orario alle 6 di pomeriggio e basta, sennò sì. è inutile metterlo così, lasciate perdere, mettete subito sul DVD. Porco Rosso a te non sembra, diciamo, questa è un'impressione mia, uno stacco dalle tematiche più serie, cioè affrontate in maniera più seriosa come in La città incantata e Castello errante diavolo? È un po', cioè non si prende troppo sul serio. Più che altro ho trovato un po' di malinconia in quei film, La città incantata e Il castello, mentre in Porco Rosso è sempre abbastanza allegro. Sì. Non c'è mai il momento triste. È un'avventura spensierata, veloce, rombante, voli di qui e di là, che ricorda, non per il disegno e altro, ma lo stile di Lupin, un sì. ritorno un po' all'avventura, all'action quasi. Non c'è niente. È divertentissimo, è veramente. Non ti lascia un momento annoiato. Possiamo dirlo, anche se è piaciuto a tutti. Sì. Marco Rosso è un'opera minore. Sì. Ho visto, eppure è bellissimo. Però aspetta, da un punto di vista contenutistico, perché a livello di visivo non è assolutamente un'opera sì, minore. Sì, è a livello di contenuti. È solo lui che vola, che sfida questi qui e là, c'è una scazzottata finale bellissima, sì. non c'è niente. C'è sempre il concetto della maledizione che è proprio di Miyazaki, cioè in ogni film la maledizione, però tutto il resto è neanche quella citazione bellissima del porco al cinema, sì. ma di porco che esatto. Beh, sì, anche l'antimilitarismo comunque è presente, però non è così approfondito, non è il nucleo del film, non è... il nucleo del film è lui che vola e che è un personaggio fantastico. Tra l'altro c'è la scena in cui spiega la maledizione a Fio, che è meravigliosa, è di una poesia straordinaria, di grande intensità, molto, molto bella. E una cosa su cui voglio tornare, che avevo detto prima, è il fatto che un regista comunque giapponese sia riuscito a cogliere così bene l'italianità, secondo me è straordinario. Perché ci hanno provato un sacco di persone, però nessuno ci è riuscito così bene. Ma lui comunque ha una grande devozione per l'Europa, per la cultura europea e soprattutto italiana, quindi... Ghibli è la parola italiana con cui chiamiamo il vento del deserto, quindi. E poi anche una serie animata dello studio Ghibli fatta insieme a Takahata, era Marco in Italia, conosciuta anche come dagli Appennini alle Ande, quindi lui è molto legato all'Italia, non so perché. E mi ricordo quando è venuto a Milano e tutti si sono stesi in Piazza Duomo a fare il suo nome. No, quello era Kojima, no? Niente. Che c'entra? Kojima. Sono tutti uguali questi giapponesi. No, comunque, il nome Ghibli ufficialmente si rifà al Caproni CA-309 Ghibli, che è un aereo italiano usato durante la Seconda Guerra Mondiale, che era usato per le ricognizioni sopra il deserto del Sahara. E in giapponese si legge Ghibli o Ghibli. Quindi noi siamo tutti ignoranti e lo diciamo all'italiana, alla grande. Ma... è una parola italiana. Sì, passiamo però al succo della cinematografia di Miyazaki. Che non chiediamo qual è il preferito di Intrinseco. Ci stavo arrivando perché già me l'ha detto. Diciamo è la tripletta di film, diciamo, più corposi di Miyazaki, che è Città Incantata, Il Castello Errante Diavolo e il preferito di Nicolete, che è? Il preferito, l'unico che ho visto, Mononoke. Non ha molto senso, cioè, quel poco che ho visto della Città Incantata mi è piaciuto di più, però appunto non ho finito, quindi non mi esprimo. Ma non dovevi dirlo, eravamo qui, insomma, fai finta di che... Di Mononoke che ci dice? Di Mononoke. L'ho visto una vita fa, però non lo so, mi è sembrato abbastanza grezzo comunque, appunto in confronto a Città Incantata, ma ho visto solo quei due. Però comunque mi ha colpito... tanto la storia, anche se ricalca un po', mi ha ricordato, oddio, quel film che ha plagiato anche Avatar, quel film d'animazione orribile, adesso non mi viene. Aida degli alberi. No, un altro, comunque sì, insomma, quel filone di film insomma, d'animazione... Pocahontas. No, non mi viene, vabbè. Niente, un po' più adulto come tematiche, in generale, anche i protagonisti mi sembra che siano un po' più grandi che negli altri film. Anche se non è proprio chiarissimo, poi c'è, insomma, sono bestie di varia forma, quindi non ho... non so, non... A me dei tre citati, tre più corposi, mi è sembrato quello più solenne, più epico, un tono più serioso. Effettivamente non c'è la burla come ci può essere anche nel Castello Errante Diavolo e nella Città Incantata. È un film che si prende tantissimo sul serio, Principessa Mononoke. Sì, molto, sì, ma anche abbastanza drammatico in generale, a parte la situazione come del genere, ma già dall'inizio. E forse è quello... Il protagonista ha già un problema da subito e non migliora quasi mai fino alla fine. Poi insomma, pesantuccio, c'è la morte abbastanza presente, direttamente e indirettamente, poi la morte dell'individuo, ma anche della natura in generale. Ci sono anche delle... da fuoco. Sì. Delle impennate gore che so... abbastanza violente, insomma. Sì, poi comunque anche abbastanza affollato, ci sono delle sequenze di battaglia abbastanza complicate. Sì. È complesso, pur essendo un'opera non minore, come nel senso che dicevate voi, però tra magari le meno citate, almeno da quel che sento adesso. Non è uno degli ultimi, ma insomma ci si mette davanti un paio di titoli almeno. Però è comunque... insomma, forse bello sostanzioso. Sì, da un punto di vista contenutistico forse è quello in cui le tematiche tanto cara a Miyazaki sono più palesi, più chiare. Sì, perché insomma esteticamente non posso dirlo, però come ho detto insomma mi sembra ci sia di meglio, no? Forse come movimento, come armonia insomma funziona, però è magari meno riuscito. Non è proprio di tematiche, cioè ci sono delle frasi in cui proprio è il manifesto di Miyazaki per alcune cose. Poi è forse, cioè è molto orientale per carità, però magari ecco, la Città Incantata ha molti elementi della tradizione orientale, invece sono secondari in Mononoke, cioè insomma il tema è lì, è occidentalissimo, e, insomma è aperto a tutti. Non... Sì. Forse è uno di quei film che è meno per bambini, ecco. È impressionante in Mononoke, ma comunque si vede anche nei film successivi, l'uso che fa del fumo, cioè la foresta in fiamme e poi anche il fumo che esce fuori dalla città, dalla città incantata, usa sempre il fumo come una minaccia, come una cosa orribile che copre tutto e dà perfettamente l'idea del la sua natura ecologista. E... No, poi Mononoke usa molto queste cose, anche insomma, la maledizione che colpisce il ragazzo, questo liquido nero, se non ricordo male. Insomma, cioè, caratterizza molto certe cose esteticamente, insomma ti fa capire cosa non va già con un fotogramma. Beh, perché poi, forse, scusa, il fumo penso che sia la cosa che unisce l'antimilitarismo e natura, è comunque una cosa che... Sì, la guerra e l'inquinamento. Esatto. È vero, sì. E poi fa impressione vedere la foresta attorno al villaggio, tutta cenere, con quelle bestie che vengono fuori la notte, per far vedere cosa fa l'industrializzazione degli umani e anche le armi da fuoco, che qui sono viste, sono messe molto in maniera negativa, ovviamente. Beh, c'è proprio una frase del protagonista Shitaka che sputa in faccia alla Capezzi, no, non lo so, come si chiama? Eboshi. Sì, praticamente gli dice proprio quanto odio ancora e distruzione spargerei ancora, quando stanno parlando delle armi con lei che ne parla tutta entusiasta, e lui ha una visione diciamo abbastanza contraria rispetto alla sua. Comunque sì, a me è piaciuto tantissimo Mononoke, forse è quello che mi ha più colpito dei tre, e non lo so, è quello che la cosa che mi ha colpito di Mononoke che mi ha fatto, diciamo, fatto capire una cosa su Miyazaki, è che effettivamente lui fa film diversissimi fra loro. Cioè, non c'è un genere particolare a cui fa riferimento. Ci sono molti generi. Ad esempio, questo è il film epico. Non lo so, è anche molto vicino a un Colossal, queste scene di battaglia, queste villaggi in guerra fra loro, due realtà che si scontrano, eserciti, e poi casomai c'è la città incantata, che invece da questo punto di vista è più intimista, diciamo. Poi c'è il Castello Errante Diavolo, invece il film fantasy. Totoro è il film per l'infanzia, con anche Ponyo. Non hai visto Nausicaa, no? No. È molto simile a Mononoke, diciamo che Nausicaa è un Mononoke grezzo. Anche qui, per esempio, ci sono i mostrotarli, sono dei mostri enormi che si ribellano all'uomo, che sono molto simili ai cinghiali di Mononoke. Comunque anche qui ci sono scene di battaglia, armi da fuoco, quindi diciamo che aveva già questa idea, l'aveva già fatta in Nausicaa, ma l'ha migliorata molto con Mononoke, che è splendido. Sì. E invece passiamo a parlare della città incantata, che tu ne sei letteralmente innamorato. Sono innamorato di Chihiro. Sì. Vabbè, però pure di tutti gli ospiti di queste terme sono fantastici. Sì, sì. Lo spirito del Ravanello, lo spirito del fiume, sono, da un punto di vista visivo è meraviglioso. C'è tutta questa varietà, ma anche lo spirito con la maschera Kabuki, No, beh, non è Kabuki. Kabuki è una maschera, è trucco. Ah, vabbè, comunque lo spirito, quello che vagava, è realizzato in una maniera splendida. Anche la rana e sì. Lo stesso Aku quando si trasforma in drago, è bellissimo. Sì. L'unico personaggio che mi ha fatto un po' disgusto, no, terrore, però è il bambinone, non lo so, mi inquieta. Sì, effettivamente, credo sia anche quello il fine di una rappresentazione così cruda, perché effettivamente è inquietante. E no, parla... È bellissimo quando la strega cattiva, per modo di dire, Zeniba, li trasforma in cose diverse, no, quando diventano quel gioppino piccolo e l'altro. E lì è bellissimo come si vanno in giro assieme. No, lo trasforma in un criceto, tipo. Sì. Lui è un roditore, diventano tipo gli uccellini che lo trasportano, insomma. Sì. Bellissimo, è la parte più comica del film. Che tra l'altro precede di pochissimo invece la sequenza più poetica che abbiamo già citato, che è quella del treno, che è qualcosa di meraviglioso, sì, da un punto di vista dell'atmosfera, diciamo. Sì, la ferrovia sull'acqua con le stazioni in mezzo al nulla e le persone che sono ombre, è bellissimo. Potrei... anche una bella angoscia. Sì. Anche la colonna sonora, me lo ricordo perché insomma l'ho visto parecchio tempo fa, mi sembrava molto evocativa. Beh, qui dobbiamo parlare di Isaishi, è assolutamente un genio per le colonne sonore. Sì. Magari un po' ripetitivo, quando ne vedi 5 o 6, insomma, stufa, però il livello è sempre quello, è sempre ottimo, anche se si ripete chi se ne frega. Sì. Anche nei film di Kitano, che lui fa le colonne sonore, sono tutte favolose, molto ovviamente asianeggianti, orientaleggianti, ma sono bellissime. Invece poi c'è Il castello errante di Howl, che è uscito 3 anni dopo La città incantata, e che fu presentato a Venezia di quell'anno. E io ricordo ancora adesso che non ricevette delle critiche proprio entusiastiche. Molti parlarono di passo indietro rispetto alla città incantata e di, non lo so, addirittura di... operazione commerciale per sfruttare l'onda della città incantata. Voi che ne pensate invece? Darkman, tu che stai abbastanza zitto. Perché non è che puoi sempre ripeterti, se hai fatto un diciamo capolavoro come La città incantata non è che puoi farne un altro. C'è comunque un ottimo film d'animazione, poi neanche l'ho finito di vedere, manca 40 minuti, quindi... Per quello che dove sono arrivato mi sembra, cioè il livello è sempre alto, anzi è interessante come se sia riuscito a trasformare la solita bambina o comunque ragazzina che era la protagonista in questa vecchietta, è già quello un punto d'inizio interessante, anche se poi caratterialmente rimane sempre una ragazzina, e poi non lo so, devo finirlo di vedere. Marfalo, forse... Forse la critica maggiore che si può fare è quella che è un po' pasticciato. Molti hanno fatto fatica a seguire la trama a un certo punto, no? Si complicano un po' le cose, molti hanno fatto fatica, però c'è una bellissima trovata alla fine. Non posso spoilerare nulla perché c'è qui qualcuno che lo sta vedendo, quindi sento vari commenti degli utenti anche sul nostro forum che dicono che a un certo punto si perdono, non lo so, anch'io, io ho seguito molto, è sembrato lineare, però sì. magari appunto, visto che molti hanno provato difficoltà, forse è questa la critica che a Venezia avevano fatto, e da lì sì. Hanno preso male, insomma. Dunque, guardando anche Il castello errante di Howl, una costante di Miyazaki, che ho riscontrato anche in altri film, è che il cattivo di non ci sono buoni e cattivi ben definiti, o meglio, ci sono, ma alla fine c'è quasi sempre la redenzione del cattivo, nel caso della strega Baba, come si chiamava? La strega di... Yubaba, esatto, anche in Mononoke, c'è sempre questa redenzione che... Non lo so, è quasi una visione ottimista comunque del mondo. Se anche i cattivi si redimono, c'è ancora speranza per questo mondo industriale e cattivo cattivo. Ma mi sembra che sia anche una cosa caratteristica di queste opere asiatiche, che non c'è mai il personaggio cattivo in tutto o il personaggio buonissimo in tutto, sono sempre ambigui. Sì. Quindi quelli che sembrano cattivi anche per esempio in, adesso non mi ricordo bene, la Piuta. Sì. Ci sono all'inizio i corsari che sembrano dei cattivoni che vogliono, sì, rapire la ragazzina. Invece poi si rivelano essere i suoi migliori amici. Sempre, insomma, sempre un topo. Più altro fa grande fiducia nel prossimo, cioè qualsiasi, certo, personaggio comunque è d'aiuto... Insomma, certo, a parte l'antagonista che poi si redime, anche tutti gli altri che incontrano, tutti i personaggi buoni che aiutano il protagonista. Questo ci permette di introdurre il prossimo tema della nostra discussione sullo studio Ghibli, ovvero la visione diversa che hanno dell'animazione, ma più in generale del mondo. Isao Takahata, che è l'altro fondatore dello studio Ghibli, e Miyazaki. Tu Darkman l'hai visti tutti i film di Takahata, vero? No, tutti no, ho visto quelli, ho visti svariati, e praticamente sì, è l'opposto di Miyazaki per certi versi, perché se da una parte c'è questa grande fiducia nel mondo, basta comunque che vedi uno per ritagata per capirlo, cioè la tomba per le lucciole, che è praticamente una visione completamente opposta, di sfiduciata. Ma a parte questo, anche negli altri, che comunque è proprio una tragedia di quelle classiche impostate in modo classicissimo, a parte questo film e anche i film seguenti, Only Yesterday, il titolo americano, che una sorta di film sulla vita quotidiana di una ragazza, poi con svariati flashback racconta l'infanzia, e si nota comunque come l'infanzia viene sempre descritta in modo narrata, anzi in modo malinconico, triste, questi momenti di felicità, però più che altro dovuti alla bambina, che era un personaggio allegro, ma la famiglia ad esempio intorno a lei, soprattutto il padre completamente assente, tutto visto in modo molto pessimista. E questo poi anche negli altri film seguenti, almeno anche in quello dopo, che non ricordo il titolo, praticamente un film che forse è l'unico film in cui, no, l'unico no, però uno dei pochi, perché solitamente, a differenza di Miyazaki, che usa parecchio la magia, in Takata questa cosa non è presente. E il film dopo questo, che è un film praticamente che racconta la storia di un gruppo di procioni che devono... Scusa, qual è il titolo? E non me lo ricordo, perché in giapponese praticamente racconta questa storia di questi procioni che vengono minacciati dall'essere umano, perché stanno disboscando la montagna, stanno costruendo la città. E quindi praticamente che succede? Che tu ti aspetteresti ovviamente la rivalsa di procioni, invece, senza spoilerare il finale, la cosa bella del film è che i procioni vengono messi esattamente allo stesso livello dell'uomo, cioè non è che la natura è buona e l'uomo è cattivo, alla fine stanno tutti allo stesso livello, c'è un vincitore e c'è un vinto, punto. E in quel film c'è la magia, perché praticamente questi procioni utilizzano delle trasformazioni per cercare di spaventare gli uomini, però anche come viene vista la magia non è allo stesso livello poetico di Miyazaki, è comunque una cosa molto terra terra, è molto pessimista. Io almeno ho visto solo La tomba per le lucciole, non so se lo dicevi proprio tu, Luca, o qualcun altro, che effettivamente di quel film si poteva fare benissimo anche un documentario, con un film neorealista, non necessariamente un film d'animazione. Lui invece ci ha fatto un film d'animazione che, oltre ad essere molto commovente, è molto molto cinico. Effettivamente Miyazaki, c'è la vecchietta vicina di casa che è sempre disposta a pulirti le mutande, a accudire i tuoi figli, mentre invece qui addirittura c'è la zia, che ha anche un legame di sangue comunque con i due protagonisti, che li tratta come pezzi da piedi, insomma, li costringe ad andare via dalla propria casa e a vivere nella miseria, nella grotta, insomma. Comunque un atteggiamento comprensibile in periodo di guerra. Sì. È un atteggiamento comprensibile, però questa cosa della famiglia comunque un po' mal vista anche nel film successivo, cioè anche la famiglia dopo è una costante, diciamo. Sì, soprattutto il padre, che è completamente assente, ma anche la madre e le sorelle non è che vengono messe in buona luce, che, tra l'altro ovviamente per quello che si può vedere comunque dal cinema, dai film che parlano di quel periodo storico, ad esempio citando in un a caso Lettere da Iwo Jima, sembra che effettivamente quello era il modo di pensare della zia dei due protagonisti, è quello, in periodo di guerra tutti devono fare la loro parte, chi non lo fa è uno scansafatiche, anche se ha a carico una sorellina che sta male, insomma, e tutto il resto, tutto quello che comporta questa cosa. Te dicevi un film neorealista, sì, l'avevo detto io. Infatti, a parte elevare l'animazione a un livello, insomma, è come La città incantata che doveva vincere a Berlino coi film live action, sì. Porta l'animazione a un livello a pari con i film d'autore o i film seri, visto che l'animazione è sempre vista, soprattutto quella occidentale, in maniera infantile. E comunque hanno fatto un film di La tomba delle lucciole, mi sembra un film per la TV giapponese, quindi è talmente un ottimo lavoro, un'ottima storia, che hanno poi fatto appunto un film. Sarei curioso di vedere se ha la stessa intensità, perché forse non lo so, comunque Takahata è un bravissimo narratore in ogni caso, anche dal punto di vista registico è fatto benissimo Una tomba per le lucciole, anche la struttura di lui, che del fantasma del protagonista che racconta la storia, Forse l'animazione gli dà quel tocco di poesia in più che live action non può. Sì, ha delle punte di drammaticità e di emozionali che secondo me in un film comunque in live action non possono esserci, proprio da un punto di vista strutturale. Proprio non riguardo a questo fatto dell'animazione, che non so se è vero, comunque ho letto una sua dichiarazione, però riguardo al film successivo sempre, Only Yesterday, perché gli hanno chiesto non l'hai fatto vero, perché praticamente non c'è alcuna, cioè era un film normalissimo perché non l'hai fatto con attori veri, e lui ha risposto che grazie all'animazione poteva dare ai personaggi praticamente delle espressioni, delle piccole cose che non potevano fare gli attori in carne e ossa. Cioè, quei piccoli particolari che poi non ci sarebbero stati in un live action. Questa maggiore è la fatica. Maggiore controllo del regista sui suoi mezzi, perché poi gli attori sono mezzi. Takahata non ha, insomma, non era un disegnatore, poi magari adesso ha imparato dopo 40 anni, però non lo so. Diciamo che faceva solo i bozzetti iniziali, lavorava lavoro agli altri. Poi. Comunque non è un disegnatore. E comunque lo studio Ghibli ha dato lavoro anche al figlio di Miyazaki, Goro Miyazaki, che se n'è uscito con il particolarissimo I racconti di Terramare, uscito nel 2006, è stato portato anch'esso a Venezia, è stato oggetto di feroci critiche da parte della critica tutta, diciamo. Voi che... Io ho letto un tuo commento. L'autrice del libro. Sì, tu, Luca, hai letto qualche giorno fa un parere non necessariamente negativo. Ma non è da stroncare, insomma. Poi consideriamo che è un'opera prima e che Goro non è nato per fare l'animatore. Lui voleva fare tutt'altro, voleva fare il ballerino, no, per Mr. T. Non è da buttare, forse non ha la potenza evocativa di Miyazaki il vecchio, però insomma, buttalo via, è un lavoro così. Lo studio Ghibli ha fatto un altro lavoro come fluidità dei movimenti, come disegno, che è impressionante. Il livello è quello della Città Incantata e Howl. Ma scusa, a livello dei dettagli mi sembra un po' più povero, sinceramente, un po' più scarno. Ma forse anche per i paesaggi è più rurale, quindi non ha molto spazio per fare tutti quei ricami e quei dettagli che gli davano più gli interni negli altri film. Per esempio i combattimenti sulla torre verso la fine, che cosa vuoi fare? C'è molto spazio bellissimo, aperto. Però, nella sua semplicità comunque è bellissimo, anche la parte finale è molto, molto particolare, molto, molto evocativa. E... comunque si distacca dai temi del padre, sì. Non c'è ecologismo, non c'è pacifismo, c'è più che altro i problemi dei giovani d'oggi, e per la prima volta si parla di droga in un film per bambini così. Il protagonista uccide il padre dopo pochi secondi dall'inizio del film, quindi comunque non so, sarà una coincidenza, ma vorrà pur dire qualcosa, insomma, che si distacca dal padre quasi totalmente. E, non so, io anche lo film per bambini un attimo, però questo belli per tutti, no? Ghettizziamo l'animazione dello studio Ghibli. Però parlavo la droga nei cartoni non si parla mai, insomma. Raramente. Sembra il caso di parlare di droga in quelle opere lì. Invece qui si vede proprio un mercante che tenta di vendere la droga al ragazzo e si vedono dei drogati come si conciano. Insomma, che tra l'altro non sono drogati, non sono adulti, sono comunque ragazzini anche drogati, quindi comunque un'immagine forte. E poi si distacca anche dal padre, il protagonista qui è un maschio, e di solito... Sono donne, sì. Sì, è sempre la figura femminile al centro. Con maiali. Sì, ovviamente non sempre è centrale la donna in Miyazaki, però quasi tutte sono sempre donne. Per esempio anche Ponyo, forse il protagonista è il bambino e non la pesciotta, però il nome dell'opera è il suo. Comunque, la donna è quasi sempre inizialmente sottovalutata e poi comunque durante il film acquista importanza e, non lo so, comunque rilevanza all'interno dell'economia del racconto. L'emancipazione della donna. Sì, sì. E, non lo so, io quando tu hai parlato di Nausicaa prima, un po' mi ha ricordato Terramare, il fatto che comunque è più, un po' più grezzo, è più raffazzonato, quindi... Se l'esordio del padre è stato Nausicaa, non vedo perché bisogna stroncare per forza il figlio in quella maniera. Perché è stato velocemente stroncato, cioè... Racconti di Terramare era una merda, secondo certa critica. Ma forse perché si aspettavano Miyazaki il grande, e invece non è, insomma, è il figlio questo. Forse non hanno capito quello, si aspettavano troppo. Molti hanno addirittura... elencato fra i difetti il fatto che comunque si distacchi dalle tematiche del padre, quando non vedo come questo possa essere un difetto. E appunto la dice lunga, insomma, sì, però la dice pure lunga sul metodo di valutazione di un film, di un artista comunque. Non... Ma poi comunque pensiamo anche che potrebbe anche non farne più, cioè è stato un esperimento, si è impuntato, ha voluto fare questo, adesso tornerà lui a dirigere. Lui ha progettato i giardini del... Non so, addirittura tutto il parco dello studio Ghibli, no? Dirigeva anche. È un architetto, mi sembra. Il suo lavoro è quello. Okay. Ha voluto provare, boh, ma non voleva neanche. Cioè, il padre non l'ha neanche mai forzato. Sì. Ci ha provato. È inutile massacrarlo così. Non è giusto. Vabbè. Insomma, chiudiamo con la speranza che anche The Borrower a Riot arrivi qui in Italia. Speriamo che il buon Occhi Pinti che ci sta portando Porco Rosso e i film di Miyazaki storici ci porti anche il nuovo film, insomma, speriamo. E ripetiamo il nome di questo qua nuovo, debuttante. Anche sì. È l'allievo di Miyazaki. Sì, è stato un animatore degli ultimi due film e si chiama Hiromasa Yonebayashi. Ne sentiremo parlare. Ne sentiremo. Sì. Nuovo argomento, il secondo argomento della nostra puntata di oggi sono le leggende metropolitane del cinema e i film cosiddetti maledetti, che fa pure rima. Il mondo del cinema è già di per sé affascinante, per le storie che vengono raccontate, il modo in cui vengono raccontate, per i personaggi, gli effetti usati, i colori, per tutto. Come se non bastasse, ogni film ha una storia tutta sua, totalmente separata da quella che vediamo poi su schermo, fatta di liti tra prime donne, incidenti di percorso, tecniche usate per ottenere effetti incredibili, casting che si rivelano scelte particolari almeno di partenza, leggende e miti che girano, magari nate da voci di corridoio o da incomprensioni, miti e leggende poi alimentate dal pubblico on video, dal pubblico che vede da casa sua. Per esempio un piccolo particolare che vediamo sullo sfondo, visto da qualche babbione, può sembrare chissà cosa, poi parleremo di Oz, dove una piccolissima cosa sembra qualcuno che si sta impiccando. E poi ci sono anche i cosiddetti film maledetti, cioè quelli che stranamente non si sa per una forza maligna che c'è sotto, una maledizione, una profanazione. Pubblicità gratuita e macabra. Molto spesso sono... pubblicità e quindi sono balle o altre volte, ma può anche sembrare incredibile, ma magari qualcuno che si mette a ammazzare le persone del set solo per fare altra pubblicità. Allora partiamo col film maledetto per eccellenza che è Gioventù bruciata, il film del 1955 di Nicholas Ray, film che ha dato la fama a James Dean, che sarebbe morto di lì a poco, a pochissimo tempo dopo, e quindi il film non ha visto neanche per intero. È impressionante che tutti gli attori principali sono morti prematuramente, James Dean è morto nel 30 settembre 1955 per uno schianto con la sua Porsche. Natalie Wood è morta, annegata, soli 43 anni, mentre era sullo yacht di suo marito e con Christopher Walken. E tra l'altro dietro c'è una storia in cui sembrerebbe che il marito l'ha spinta e l'ha uccisa perché pensava che aveva una tresca con Walken, che ce ne vuole per avere una tresca con Christopher Walken, è terribile. Sì. Esatto, poi... scusa, è la cosa che mi dice la mia ragazza, perché voi uomini quando vi tradisce la ragazza uccidete il coso, l'uomo? Uccidete la ragazza, e questo infatti ha fatto così, ha ammazzato la ragazza. Quale uova? Appunto. Sì. E poi la morte di Saul Mineo, a suoi 37 anni, accoltellato davanti casa durante una rapina. Nick Adams che muore di overdose. E poi vabbè, se vogliamo mettere anche Dennis Hopper, che è morto prematuramente, ma insomma, ha raggiunto comunque una punta. Ma Hopper non è morto per una maledizione. Hopper ha deciso di morire perché ha saputo che un protagonista di Men in Black 3 sarebbe assomigliato alla sua figura, quindi per questo ha deciso di morire, dai. Ce lo auguriamo. E non è finito qui. Pensare che la sera in cui è morto James Dean, Natalie Wood, Saul Mineo e Nick Adams erano in un ristorante a New York e stavano parlando proprio di James Dean, dicendo che un giorno di questi avrebbe lasciato le penne se continuava a fare il cretino. Proprio in quel minuto è morto. Altra cosa, un giornale losangelino che stroncava qualsiasi film si divertiva così, era un giornale di satira, si divertiva così, stroncò Gioventù Bruciata dicendo: il film non l'abbiamo neanche visto, ma leggendo solo la trama fa talmente schifo che non ci siamo neanche disturbati a vederlo. Speriamo che gli attori muoiano dolorosamente e prematuramente. Una maledizione che si è avverata. E per concludere con Gioventù Bruciata, ma più che altro con James Dean, la sua macchina, la Porsche, che è stata distrutta nell'incidente, si dice che sia una macchina assassina, perché è stata comprata da un meccanico che ha venduto le parti ancora sane, ha venduto un motore a uno che si è schiantato in una gara, è quasi morto, è partita via una gomma e ha preso in pieno un poliziotto e andato all'ospedale, ha venduto altre parti a uno che si è schiantato sempre con la macchina ed è morto sul colpo, poi ha fatto fare il giro dell'America nei musei a questa macchina e la prima serata ha fatto bruciare tutto il museo, tutte le macchine all'interno tranne quella macchina lì, l'hanno portata a Miami, è caduta dal camion mentre era in autostrada, si è spaccata in due e ha causato un incidente enorme, è stata portata a Miami, è scivolata da una rampa e ha preso in pieno uno spettatore, gli ha spaccato tre costole, mentre la spostavano. Questa non so bene come sia andata, ma quello che guidava il camion è sbalzato fuori dal suo posto, perché ha sbandato dal posto di guida, e la macchina dietro non era fissata, gli è finita sopra e l'ha ammazzato. L'hanno portata in officina, è caduta e ha spaccato le gambe a uno, e finale del finale l'hanno portata di nuovo a Los Angeles, dicendo basta, adesso se ne rimane in officina per sempre. Arrivati a Los Angeles, aprono le porte del camion, non esisteva più la macchina, scomparsa, non l'hanno più ritrovata. Questa è la fine della macchina assassina di James Dean. E per aggiungere una cosa, qualche anno dopo uscì un film horror che si chiama Darkling, in cui il protagonista compra la macchina di James Dean, e il film era orribile, la maledizione si continua. Ma c'è anche una maledizione su James Dean, cioè vari produttori hanno tentato di fare un film su James Dean, e o sono falliti, o Robert Altman ci ha provato con un documentario e un'opera teatrale e non ha guadagnato un becco di un quattrino, o vari produttori sono anche morti nel tentativo, o hanno fatto bancarotta che li ha portati a suicidarsi. Quindi è proprio una maledizione terribile. Okay. Chissà perché poi. Un altro film maledetto, ma di qualche anno prima, di circa 15 o più anni prima, è Via col vento. Qui la maledizione colpisce tutti, ma insomma è meno grave. Manderà sotto un taxi Margaret Mitchell, la scrittrice, Gable nel 42, Clark Gable, il protagonista, nel 1942 perderà la moglie, la bellissima Carol Lombard, però qui parlai di maledizione, insomma. Un po' alla larga. Insomma. Vivien Leigh, che era si era lamentata tutto il tempo con Gable, perché lei, inglesina, vissuta con Shakespeare, non voleva baciare un bifolco con l'alito, con la fiatella alcolica come Gable, è diventata matta successivamente al film. La seconda tata del film, Thelda McQueen, muore in un incendio, Leslie Howard, uno dei protagonisti, muore in guerra, e la McDaniel, l'attrice di colore che ha vinto l'Oscar, vabbè, qui si spegnerà in solitudine, ma qui parlare di maledizione mi sembra esagerato, non è ai livelli comunque di Gioventù Bruciata. Sì, cioè, ne abbiamo sempre sentite un sacco, ad esempio anche quella di Dark Knight, in cui muore sia Heath Ledger che un addetto agli effetti speciali e tutto quanto. E molte volte è sempre una cosa che prendono molto alla larga queste leggende, nel senso sì, vabbè, uno è morto perché doveva morire, è maledizione, però quella di Gioventù Bruciata è veramente assurda. Poi adesso parleremo anche dei film come L'Esorcista o Poltergeist, che lì sembra che la maledizione sia causata da una presenza maligna che ha a che fare col film, ma qui sì. Era un film spensierato sulla gioventù, non si capisce proprio dove sia nato. Sì, ma anche quelle dell'Esorcista e di Poltergeist non sono a livello di quello che ci hai detto tu sulla Gioventù Bruciata, è pazzesco. Sì. Andiamo avanti, eh. Quindi vado con L'Esorcista, e il discorso invece è diverso per L'Esorcista, sempre rimanendo in tema di film maledetti, perché sembra che una forza soprannaturale condizionasse la produzione. Ellen Burstyn, la mamma del film, poco prima di iniziare a girare fu colpita da un infortunio al collo che la tenne ferma per più di una settimana. I macchinari sul set si guastavano ogni giorno, un incendio devastò il set, poi il fratello Von Sydow muore in Svezia durante la lavorazione del film, come anche il nonno di Linda Blair, la protagonista, e l'attore Jack McGrone, che nel film viene ucciso dalla bambina, muore esattamente 2 mesi dopo la scena. Poi l'attore che interpreta il padre Carras si schianta a pochi metri dal set in motocicletta, rimane in bilico tra vita e morte, mentre un lavoratore del set perde la vita e pure il figlio, però non sul set. Infine Dana Plato, che sembra... Non è che gli è cascata una trave in testa, insomma. No. Infine Dana Plato, che sembrava sfuggita alla maledizione, fu scartata per il ruolo di Regan perché la madre non volle, e poi morì anche lei prematuramente a 36 anni, e poi anche il figlio si suicidò poco tempo dopo. Ma moriva pure qua, insomma. Dana Plato, che faceva parte della serie Arnold, il mio amico Arnold, si dice che anche lì ci sia una maledizione sulla serie. E per finire i maledetti, per concludere con i maledetti, la trilogia di Poltergeist, dove la protagonista morirà alla fine della trilogia a soli 12 anni, colpita da un morbo misterioso di cui non si è scoperta l'origine. La medium del film perde la vita in un incidente d'auto, lo sciamano stroncato da una malattia incurabile, la sorella della protagonista muore strangolata a soli 22 anni dal fidanzato in preda a un raptus. Cosa c'è dietro? Si pensa a una profanazione, la casa dove sono girati i film è sopra un cimitero indiano. Semplici coincidenze e palle? Qualche mitomane killer che fa tutto per alimentare queste leggende? Sono maledizioni che si prestano molto facilmente a film dell'orrore, ma come dimostrano i primi due film, può colpire qualsiasi genere. Vabbè, altri film cosiddetti maledetti sono, vabbè, il già citato Dark Knight, abbiamo detto che è morto Heath Ledger. Tra l'altro c'è una curiosità su Heath Ledger. Sembra che quando si venne a sapere che Heath Ledger avrebbe interpretato il Joker, Jack Nicholson gli telefonò dicendo di stare molto attento, perché ha un ruolo molto particolare, un ruolo addirittura maledetto, dice lui. Però fatto sta che Heath Ledger è morto, e vabbè, e non è morto solo lui sul set di The Dark Knight, è morto, come abbiamo detto, anche un addetto agli effetti speciali. Tra l'altro portò sfortuna anche a Bale, Christian Bale, che fu arrestato poco dopo la prima, mi sembra, di Dark Knight, no? Perché ovviamente ha pestato i familiari, non si è mai capito bene com'è andata quella situazione. E tra l'altro Morgan Freeman, invece è uscito di strada con la sua amante e ha rischiato di rimanerci secco in questo incendio stradale. Poi e la moglie ha scoperto l'amante proprio quello che... alla grande proprio. Però questa sembra una maledizione che colpisce i personaggi della DC al cinema, perché anche chi interpreta Superman esce a pezzi. Vabbè, Reeves ovviamente, Christopher Reeve lo sappiamo tutti che è caduto da cavallo e si è spaccato la schiena e vabbè, e poi è morto anni dopo. Kirk Allen, Superman negli anni 40, vide la sua vita invece rovinata, divenne povero e l'ambiente hollywoodiano lo dimenticò e lo scacciò subito. Perché, vabbè, dissero che il suo ruolo di Superman gli avrebbe rovinato la carriera, tutti l'avrebbero ricordato come Superman e non poteva prestarsi a interpretare altri ruoli, insomma. Negli anni 50, invece, George Reeves fece la stessa fine di Allen. Però lui si sparò poco prima delle nozze. Adesso c'è il belloccio Brandon Routh, dobbiamo vedere che fine farà. Intanto sta interpretando il film su Dylan Dog, che non è propriamente un film allegrotto, quindi a fine che anche ci sarà una maledizione di Dylan Dog, dai. Poi vabbè, c'è... Forse si salva dalla maledizione, perché si stanno anche provinando Zachary Levi. Ha fatto l'audizione oggi. Sì. Quindi. Addirittura, quello che interpreta Chuck, la serie televisiva. Sì. Ah, sì. Andiamo bene, vabbè. Comunque, poi vabbè, c'è anche la maledizione di 007, di Quantum of Solace. Penso che sia isolata a Quantum of Solace. E vari stuntmen sono morti, chi ha negato nel guard dentro la macchina e non lo so, altre morti varie di cui non c'è dato sapere il perché e il per come. Infine ho sentito sì. Che la serie di James Bond rende sterili addirittura, sono vari casi e pelati. Sì, anche. Infine abbiamo Ai confini della realtà, dove Vic Morrow e altre due comparse vennero uccise dalle pale di un elicottero durante l'episodio di Landis, il regista di penso sia lo stesso, il regista di Blues Brothers e di Animal House. Sì, no? Sì. Il confine della realtà era il film a episodi, sì. Con Landis, Spielberg, sì. E altri. Joe Dante mi sembra pure ci fosse. Sì, esatto. Vabbè, non lo so, per i film maledetti possiamo dire anche di basta così, anche perché tutti sti morti sinceramente prima di andare a dormire non fanno bene. Passiamo invece alle leggende metropolitane. So che c'è il Monco che ce ne vuole dire una in particolare che gli sta a cuore. Sì, è il mio film preferito, il mio film gay preferito che è Il mago di Oz, 1939. Allora, avevamo detto che la smettevamo con i morti e invece, tac, è un altro morto. Perché in una scena, se volete andare a vederla, quella in cui se ne vanno la sua interpasseria e Dorothy, quando hanno incontrato l'uomo di latta, se ne vanno danzando verso la foresta dove poi incontreranno il leone, sullo sfondo molti fan, credo... insomma, molti spettatori, credo quando il film uscì in un video, perché al cinema mi pare difficile notarlo al primo colpo, vedono che sullo sfondo, nella scenografia, c'era qualcosa di strano e sembrava un piccolo ometto che con una corda l'attaccava a un albero e si impiccava. Da lì, non si sa come, uscì la notizia, la voce, che questo qui era uno dei nani che interpretavano i mastichini all'inizio del film, che aveva avuto una delusione amorosa, cioè se le inventano proprio bene le palle, perché come fai a arrivare a questo? Vedi solo un fotogramma così e boh, ti costruisci dietro una storia così favolosa. Appunto si impiccò per questa delusione e poi gli studios insabbiarono tutto perché, insomma, è cattiva pubblicità. Allora, innanzitutto, se vuoi... Comunque, scusa, altri tempi proprio, che attivava la pubblicità, quando oggi una cosa del genere manderebbe gli incassi alle stelle, insomma. Ma poi credo che ai tempi nessuno ha notato e nessuno è sabbionoso. Una cosa che è uscita poi e erano già tutti morti, credo. Sì, i mastichini. Sì. Beh, se voi andate a vedere quella scena, adesso col DVD, che è stato restaurato il film tempo fa, si vede benissimo che quello non è né un nano né nient'altro, è un semplice uccello, un emu, bello grosso, che apre le ali, le chiude, forse becca anche per terra, e quando si avvicinano i personaggi, perché gli vanno incontro, le apre di nuovo, come insomma come si comportano gli uccelli davanti a magari un pericolo. Niente di che. Comunque, per chi non ci credesse, e credesse ancora che è un povero mastichino impiccato, la leggenda è stata sbugiardata per vari motivi. Prima di tutto, gli attori nani sono stati assunti tempo dopo quella scena. I mastichini si vedono all'inizio del film, quindi insomma è stata girata prima la seconda parte del film, e quindi è impossibile, i mastichini non esistevano ancora nella sceneggiatura né in cosa, e già si suicidavano, vedi? Infatti, sì, perché questo qui era previdente. E poi ci sono le carte che dimostrano che i produttori comprarono o affittarono, meglio, degli uccelli di grossa taglia dallo zoo lì vicino per metterli sullo sfondo, per ricreare, insomma, visto che era un ambiente in esterno, ricreare la fauna lì attorno. E poi infine, se proprio non ci credete, è possibile che tutti gli attori che passavano di lì, tutti i microfonisti, quelli addetti alle luci, il regista, non l'hanno visto questo che si impicca? E poi quando l'hanno doppiato, hanno preparato il montaggio e tutto, e anche quando l'hanno ristrutturato, non hanno mai visto questa cosa. No. Vabbè. Quindi comunque, è una... Io il filmato su YouTube l'ho visto, cioè ho pure il DVD, però sinceramente non mi teneva questa smanetta tutto quanto. Effettivamente sembra qualcosa che oscilla. Poi vabbè, la fantasia ovviamente ha fatto tutto il resto, però un moto oscillatorio sembra accennato, quindi... Ma su YouTube si vede malissimo, Sì. Se tu metti sul DVD vedi chiaramente che è un uccello, si vede il becco, si vedono le ali, YouTube inganna parecchio. Ok. E comunque non è l'unico problema che ebbe il Mago di Oz, perché l'uomo che doveva fare, l'attore che doveva fare l'uomo di latta, non avvertì gli addetti al trucco che lui soffriva di allergia all'alluminio, e così l'hanno riempito totalmente con anche polvere, insomma, per truccargli la faccia, e è stato tanto così da morire per una crisi respiratoria che lo stroncava di brutto. Santo cielo. No. Quello che faceva lo spaventapasseri si è graffiato tantissimo con la paglia. Il leone doveva portarsi in giro 20 kg di roba e stava malissimo a fine giornata perché la tuta era pesantissima. L'attrice che fa la strega, per fargli quel colore verde che ha sulla faccia, avevano usato il rame. Solo che in una scena lei appare, il classico espediente che si usa per le streghe, l'esplosione, il fumo, e una fiammella era partita sul suo volto, a contatto col rame si è ustionata tutta. Vabbè, questa è più negligenza che maledizione. Vabbè, siamo nel 39. E per finire, vabbè, intanto il leone doveva farlo, il leone della Metro-Goldwyn-Mayer, cioè volevano farlo recitare. Poi alla fine hanno visto che insomma era un po' difficile, hanno preso un attore. E comunque questo attore qui è l'unico al mondo che ha sostituito un animale. E poi i mastichini ci provavano spudoratamente e molestavano Judy Garland, che all'epoca aveva 17 anni, ed erano sempre ubriachi, erano un centinaio e passa in giro per il set. Grandi momenti. Una povera ragazza. Bei tempi. Ah, comunque invece... sua figlia è Liza Minnelli, quindi forse da quello. E invece il buon Nicolete vuole parlarci di un'altra leggenda metropolitana molto suggestiva, vero? No, non voglio. E dai! Vabbè, questa è più storica, insomma, abbastanza inverosimile, comunque interessante. L'attore che interpretò il Nosferatu del 22 nel film di Murnau, secondo molti, secondo insomma, notizie del set, sembra fosse un vero vampiro, comunque nascondesse qualcosa, perché era poco disponibile a girare di giorno, aveva insomma, una serie di esigenze poco chiare che hanno portato sia il pubblico che, insomma, probabilmente anche lì, magari una forma preventiva di promozione o postuma, non credo, insomma, non è che ci si guadagnasse molto. Comunque hanno incentivato questa finta notizia e c'è chi addirittura ci ha ricavato, insomma, un film, adesso non ricordo di chi era. Oddio. Ah, però c'era John Malkovich, ricordo. Sì, L'ombra del vampiro, mi ricordo il titolo. Sì. Vabbè, qui non c'è scritto. Vabbè, comunque, insomma, ad accrescere questa leggenda c'è stato anche un film con John Malkovich che appunto si basa proprio sull'ipotesi che questa leggenda sia vera. Insomma, il vampiro è un vero vampiro e gira il film proprio per arrivare in Europa e raggiungere la donna di cui è innamorato, come il Nosferatu del film. Un po' strano, probabilmente più legato al fatto che era uno dei primi film realmente scioccanti, e non può essere che qualcuno abbia pensato di ricamarci sopra, pure il pubblico ci ha costruito sopra qualcosa. Tra l'altro ricordiamo che ha lavorato Max Schreck, sì, sembra Bach. Fosse addirittura un attore legato a Stanislavski, quindi insomma, anche attestata come... però il nome è anche già di per sé, lascia intuire che forse insomma, è inventato, cioè, massimo terrore, massimo disgusto, insomma, sembra una pura dichiarazione di intenti. Ma comunque il fatto che abbia lavorato con Stanislavski spiega anche il fatto che lui non volesse girare di giorno, sì, appunto, e fosse schivo, insomma. Sì, appunto, esigenze lavorative, anche però... Sì. Chi quella cosa smentisce è che fosse sì un attore che ha studiato con Stanislavski, ma un attore minore che aveva fatto produzioni solo di infima categoria, quindi insomma, sembra strano che si atteggiasse tanto a insomma, prima donna, quindi però appunto su questi film c'è talmente poco. Poi in Germania dopo la seconda guerra mondiale hanno bombardato e distrutto tutte le fonti, già di queste copie ce n'è poche, quindi insomma penso siano quasi tutte leggende, e poi era facile che nascessero, ecco. Insomma, i primi film horror, anche se poi non erano horror ancora. E invece l'altra curiosità di cui vuoi parlarci è quella riguardo la famiglia Lee? C'è qualcosa in mezzo, vado direttamente io. Vabbè. Sì, sì, sì. Questo è un più che un film maledetto, appunto, è un nome maledetto. In particolare riguarda Bruce Lee e il figlio. Bruce Lee, vabbè, come molti sapranno, soprattutto i fan, è morto in circostanze misteriose, più o meno chiarite, insomma... proprio tra l'altro nel giorno in cui doveva incontrare Lazenby, che doveva collaborare con lui nel film L'ultimo combattimento di Chen, che a lui aveva scritto e voleva girare, ha avuto una reazione a un farmaco che gli ha provocato l'ingrossamento del cervello e la conseguente morte. Già su questo si specula parecchio, che insomma qualcuno ha parlato di droghe, ma insomma... fa strano parlare di droghe con una persona così attenta alla forma, che insomma, basava la sua carriera sulla forma fisica, sulla prestanza. Quindi addirittura altri hanno parlato della Yakuza o in generale di qualche fondamentalista che non gradiva il suo modo di esportare la cultura asiatica, insomma una forma di lotta che era una mercificazione, secondo molti. Però a parte questo, la cosa si complica successivamente, anche questo fa sembrare più realistico il tutto. Il figlio, anni dopo, partecipando al Notissimo Corvo, che appunto è famoso quasi solo per questo, al di là della qualità discutibile, è morto sul set mentre girava una scena particolare che secondo alcuni è stata mantenuta nel film, in cui un criminale spara all'attore con una pistola a salve, che però non era caricata a salve, e che quindi ha ucciso Brandon Lee con un colpo in faccia, se non sbaglio. E vabbè, sembrerebbe un caso, no? Un padre e figlio morti in circostanze misteriose. La cosa strana che poi mi ha colpito, perché quando ho visto il film non lo sapevo, guardando L'ultimo combattimento di Chen, che comunque non è la versione di Lee, perché lui aveva girato soltanto una piccola parte, aveva in mente tutt'altra sceneggiatura. Comunque... in questa storia, anche per giustificare l'assenza di Lee, che era morto, hanno inventato uno stratagemma: il protagonista si finge morto e cambia faccia, si nasconde. E a un certo punto, questo Billy Law, girando uno dei suoi film, perché è un attore, viene ucciso, o comunque viene attaccato da questi criminali proprio sul set, e uno di loro si spaccia per una comparsa e gli spara in faccia. Lui si finge morto, in scena la morte e così via. Però appunto, la cosa è abbastanza strana, perché anni dopo il figlio morirà nello stesso modo. Cioè, è paradossale. Sì. Ma profetico. Che la faccia della coincidenza, insomma. Sì, chi parla di un omicidio della mafia, di che sia, potrebbe pensare che chiunque abbia ucciso il padre avrebbe voluto autocitarsi e uccidere il figlio allo stesso modo. Chissà per quale ragione, che Brandon Lee era insignificante, quindi... Invece Christopher Lee è immortale. Sì, purtroppo. Lui è il vampiro. Sì, lui forse è probabile. Sì. Oh, la grafica di Star Wars lo tiene in vita. Sì, sì. E anche le controfigure che si vedono, che sono controfigure, sì. Caro Lucas, non è che non si vedono. E un altro... Possiamo fare come il Signore degli Anelli, tenerlo fermo il più possibile. Sì, sì, sì. E tanto combattevano a distanza con Gandalf. Sì, sì, con la forza. Un'altra leggenda particolarissima è quella dell'Oscar di Marisa Tomei, che si dice che abbia vinto l'Oscar unicamente perché il presentatore Jack Palance avrebbe sbagliato a leggere il nome, molto probabilmente perché era ubriaco. Intanto qualcuno sta bruciando il computer. Se n'è andato a fuoco Darkman. E vabbè, comunque questo fatto non è vero. Nonostante le voci insistenti al riguardo, che iniziano a circolare subito dopo la cerimonia, si dice che la vera vincitrice fosse stata Vanessa Redgrave per il suo ruolo in Casa Howard. Invece, quanto pareva, si sarebbe trattato o di un reagiro da parte di Palance o di un suo errore perché era ubriaco o perché fosse incapace di leggere correttamente il nominativo contenuto nella busta. Anche perché Tomei e Redgrave si confondono. Sì. Ma Risa con Vanessa poi non... Comunque tali voci sono state smentite dalla PricewaterhouseCoopers, la società che controlla l'assegnazione dei premi e che dispone i propri membri nel backstage con l'incarico di controllare che sia letto il nome giusto, insomma. Comunque nel caso in cui avvenga un errore, uno di loro interviene all'istante annunciando il vero vincitore, quindi non è proprio possibile che sia accaduta una cosa del genere per quanto riguarda il premio di Marisa Tomei. Poi basta vedere mio cugino Vincenzo e capisci proprio che l'Oscar è meritatissimo. Un'altra leggenda particolarissima è quella che c'è dietro a Tre Scapoli e un bebè. In una scena pare veramente evidentissimo che dietro le tente in una stanza ci sia un bambino o il fantasma di un bambino. Addirittura cominciarono a parlare del fatto che questo bambino fosse il fantasma di un bambino di 9 anni che si era sparato nell'appartamento in cui avevano girato il film, cose del genere, insomma. In realtà è tutto molto molto molto semplice. Praticamente nella sceneggiatura c'era uno dei tre personaggi, dei tre protagonisti, che era un pubblicitario. Era stata studiata una gag su una sagoma pubblicitaria, uno di quei cartelloni che si vedono spesso, no? E praticamente durante il film questa sagoma ogni tanto riappariva, spariva. Evidentemente qualcuno l'ha lasciata sulla location dietro quella tenda e quindi si vede questo personaggio dietro la tenda che sembra tanto il bambino di 9 anni che si è sparato. Quindi non è tutto molto semplice, c'è questa gag che è stata rimossa successivamente dalla sceneggiatura e dal film, però la sagoma è rimasta. Niente di particolare, insomma. Peccato. Sì, perché la scena comunque è inquietante, perché si vede questa presenza dietro la tenda, però niente di particolare. Un vero falso? Monco? Dici qualcosa Dai, interessante. Allora. Girò la voce che il famoso critico cinematografico Gene Siskel, che lavorava presso un giornale Los Angelino, si fece sotterrare con il pollice verso l'alto, come un suo apprezzamento per la vita che ha fatto. In realtà è falso, non è stato seppellito così, però è una cosa abbastanza divertente, soprattutto per questo critico che forse era anche abbastanza cattivo coi film. girava voce che Steven Spielberg avrebbe iniziato la sua carriera non per bravura o per altro, ma perché si era intrufolato in uno studio della Universal che era vuoto, e da lì gli hanno dato vari lavori, ma non è vero, e lui ci scherzò varie volte su questo. Era lui il primo a mettere in giro questa voce. Il primo film di Stallone invece è stato un porno, si chiama, se volete trovare, di sicuro vorrete trovarlo, ed è Party at Kitty's and Stud. Da qui poi mi sembra che il secondo lavoro fu fare la comparsa in un film di Woody Allen, molti se lo ricorderanno. Sì, comunque da lì in poi la sua carriera è stata davvero... Si è brillante. Sì, sì, sì. Tra l'altro, questo Party at Kitty's and Stud è stato poi rieditato dopo il successo di Stallone ed è uscito col titolo di Italian Stallion, da lì poi il soprannome di Stallone, insomma. Un eroe per tutti noi italiani. E poi, dopo questo, non ha mai smesso di fare pornografia. Sì, sì, infatti, la sua carriera è proprio impennata, da lì... Sì, poi... Si dice, questa voce non è mai stata smentita ufficialmente, che Jamie Lee Curtis è un'ermafrodita, cioè ha tutte e due i membri sessuali. Molte volte hanno chiesto al padre, Tony Curtis, se fosse vero questa notizia, lui non ha mai risposto. Non si sa perché è infastidito o perché insomma c'è qualcosa di vero sotto. Infatti si dice che il doppio nome di Jamie Lee sia appunto perché a un certo punto avrebbe deciso lei se essere un uomo o una donna facendo l'operazione. Per ora i nomi li tiene, quindi potrebbe essere entrambi. Quelli che hanno il poster in camera si stanno masturbando, cattive notizie. Girava voce che il padre di Clint Eastwood fosse Stanlio, di Stanlio Olio. In effetti qualche somiglianza c'è, ma poi la figlia di Stanlio disse che Eastwood non era assolutamente suo fratello, né si erano mai visti in vita loro. Per i fan di Napoleon Dynamite, qualche tempo fa è stato un periodo in cui si sono terrorizzati perché il loro eroe John Heder era dato per morto su internet in un incidente di auto o per overdose, invece sta benissimo, è ancora vivo adesso. Stessa cosa era capitata a Zach Braff, però anche lui aveva fatto un video in cui dimostrava di essere vivo. Ed è la stessa cosa è successa anche alla doppiatrice di Pikachu dei Pokémon. È successa proprio oggi ed è già stata smentita dall'agenzia di doppiaggio dei Pokémon. cosa doppia, scusa? Puka Puka! Quando fa così, no? Sì, ma soprattutto l'ha fatto, bastava farlo una volta. Ma diventa da dimostrato trasmesso a oltranza. Voi non cogliete le sfumature, villani. È come la doppiatrice di Beep Beep, diceva Beep e poi il resto la ripetevano dopo. Oppure guarda. Quella di Willy e Coyote. E cos'è Beep? per l'appunto. Ma sai cosa anche? Quella di Willy il Coyote. Dai, andiamo avanti. Allora, basta con i misteri, per favore. Girò la voce che Marilyn Monroe aveva 6 dita su ogni piede, falsissimo, basta vedere le foto, però a quei tempi magari una foto un po' di scarsa qualità poteva sembrare chissà cosa. Questa è molto divertente ed è vera. Jack Nicholson per ben 37 anni della sua vita ha pensato che sua madre fosse sua sorella. Non so come l'abbia scoperto a una data... Lo so io. Apparentemente ci fu un giornalista che sta investigando su questa notizia praticamente e l'ha tipo tartassato per una settimana e alla fine ha detto guarda che tua sorella in verità è tua madre, insomma, ha detto quello che gli ha svelato tutto quanto, insomma. Sì, vabbè. Ma perché la madre gli era tenuta nascosto? Cioè perché sta perversione? Perché Jack Nicholson, ma l'hai mai visto? È terrificante parlare con No, perché era frutto di una gravidanza non desiderata e sembra la madre fosse molto giovane quando ebbe Jack Nicholson. Ma mi pare che la madre era molto assente, nel senso l'aveva lasciato ad altri, oppure alla sorella proprio, quindi lui era convinto che, cioè, nel senso era nata per caso questa convinzione, se non sbaglio. Uh-uh. Come anche Lennon. Ha conosciuto la madre, ma non lo sapeva, l'ha saputo anni dopo, lei è morta poco tempo dopo, non so se la sapete. No. E lui viveva dalla zia, se non sbaglio, la zia era una rompicoglioni, lo castrava molto anche dal punto di vista artistico. E lui aveva conosciuto questa donna, che era un'amica di questa zia, andava da lei, lei lo incoraggiava a suonare, detto, no, sei bravo, dovresti fare musica, e a un certo punto ha scoperto che era la madre, tutto contento, ha detto agli amici, ha iniziato a suonare, insomma ha fatto quello che incoraggiava a fare, e poco tempo dopo è stata investita, credo. Quindi non ha avuto neanche il tempo di realizzare che era la madre ed è morta. Ok. Vabbè, tornando su Nicholson, quindi pensava che la nonna fosse sua mamma, e tra l'altro non voglio spoilerare nulla, ma Chinatown, insomma, c'è un elemento che è simile a questo, e c'è Jack Nicholson. È vero. È un caso, ma è molto divertente come cosa. E poi, vabbè, questa è una piccola curiosità, Jack Nicholson andò a vedere Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, versione integrale, alla prima, e dopo circa un'ora è uscito, perché è andato a dormire in macchina, e quando ha visto Elijah Wood agli Oscar, gli ha detto, oh, complimenti, ma com'è che va a finire poi? Perché io mi sono proprio abbioccato. Gli ha detto così, con naturalezza. Il Morandini. Sì, tristezza. Madonna, che bello questo film. Io vado. E per concludere, la roulette russa che conoscete tutti e che avete tutti sperimentato almeno una volta è stata inventata proprio sul set del Cacciatore. Prima del Cacciatore nessuno aveva mai fatto la roulette russa. Incredibile, ma da lì è nata e molti si sono suicidati così. Ma perché chiamarla roulette russa se non esisteva ancora? Perché chi ha dato il nome? Perché? Roulette gira. Roulette vietnamita suona proprio male. Solo dei russi potevano pensare a una cosa così stupida. Non capisco. No, suonava bene. Allora, roulette russa è perfetto. Sì, sì, ma chissà perché, visto che l'hanno inventata loro, chissà con che criteri hanno scelto il nome. Vabbè. Lo chiederemo a Michael Cimino, tanto non c'è nient'altro da fare, quindi. A parte far fallire la United Artists. Esatto, sì. Però ha inventato la roulette russa. Così i manager della United Artists sapranno cosa fare. Siamo all'angolo dei consigli per la serata. Una base di sottofondo, grazie. Ok. Perfetto, mi sento molto Emanuela Fogliero, senza il balconcino. Il balconcino, chiamo balconcino, vabbè. Abbiamo capito tutti. Allora, per la prima volta nella storia di questo programma abbiamo visto tutti e quattro lo stesso film, è incredibile, che discussione verrà fuori. No, non è vero, dobbiamo essere brevi perché ci stanno sfrattando. Il film è Toy Story 3, capitolo definitivo, punto interrogativo, della famosa saga dei giocattoli. Sì. Forse. Non c'è limite allo sfruttamento del logo. Sentiamo Darkwan, che è forse il fan più accanito tra noi. Non è vero, è Alessandro il fan. Sì, decisamente. Allora rifaccio. Aspetta solo una cosa, fammi vedere. Fallo là. Dormo. Capitolo definitivo, ho detto punto interrogativo, perché il brand può essere ancora sfruttato. Comunque hanno raccontato tutto, perché da come finisce il film, il 3, se reiniziasse, se facessero un 4, praticamente sarebbe una specie di copia dell'1. Perché praticamente la storia sarebbe quella. Se lo riambientano fra 10 anni, cioè se tra 10 anni rifanno il 4, sarebbe una specie di 3 20 anni dopo. Quindi alla fine hanno praticamente raccontato già tutto. Con l'1, il 2 e il 3 hanno preso tutta la storia che potevano, cioè tutto l'arco narrativo, non c'è più spazio per niente. Potrebbero fare uno spin-off tra questi 10 anni, ma non ci avrebbe molto senso. Però speriamo. È definitivo, sì. Ah, io non penso ci sia altro da raccontare. Io non capisco il discorso tuo del Monco. Il discorso serviva? No, allora è un brutto film o è un film solo buono? È un discorso che proprio non comprendo. Non ho detto questo. Sì, hai detto questo. No, io partivo con la domanda, il dubbio. Serviva un terzo? Per me no. Poi sono andato a vederlo, mi è piaciuto molto, non mi è piaciuto come a voi che siete fan, che ci siete cresciuti con questo, però gli ho dato 7,5, non è che gli ho dato 6 proprio per essere bravo. Non riesco a dargli un 9, dai, su. Perché no? Ma comunque... Non ci vedo Insomma, 9 lo posso dare alla città incantata. Sì, ma se non ti colpisce a livello emotivo, ovvio che comunque gli puoi dare 9. Lo comprendo comunque. Ma scusa, anche se anche non fosse per questo, per il fatto che non colpisce emotivamente, perché casomai non ci sei cresciuto, cose del genere. Ma anche solo per il ribaltamento di prospettive, per come è fatto bene in quel film. Cioè, secondo me andrebbe premiato solo per quello. Perché, cioè, rendere l'asilo il luogo più brutto, deprimente e pericoloso di sto pianeta è una cosa, è un'idea geniale. E per come è realizzato, cioè, alla fine, effettivamente, il sottotitolo che hanno, non so se c'è anche nel titolo inglese, però il sottotitolo è azzeccatissimo, perché alla fine, effettivamente, è un film di tipo La Grande Fuga di con Steve McQueen, molto... James Dean. No, che James Dean. Che stai dicendo? Non lo sono un po' tutti e tre i film di fuga, cambia solo il posto da cui devono scappare. Sì, ma non c'è nei altri due, secondo me è superiore anche agli altri due, anche per questo, perché non c'è un ribaltamento di prospettiva così ben fatto e così ben realizzato, così suggestivo nei altri due. Il ribaltamento rispetto a cosa? Rispetto al fatto che l'asilo comunque è il luogo più gioioso al mondo, penso su questo tutti bambini, siamo... Cioè, sì, sì, ma anche per un adulto, cioè... Sì, ma non per il giocato, cioè nel senso era scontato che andasse così, è un po', no? Sì, perché questo è concordo, però resta il fatto che comunque è fatto benissimo e sì, è una bella idea, geniale. Soprattutto è superiore a quella delle altre due, cioè l'idea, la casa del bambino che distrugge i giocattoli, oppure quella del collezionista, insomma, anch'io ho gradito molto di più questa, in un certo senso. Sì. Più originale. Proprio più... quello, il fatto è che comunque... vabbè, quello che ho detto, insomma, che mentre la casa di Sid era comunque un luogo deprimente, oppure quella del collezionista comunque non era proprio un luogo allegrissimo, l'asilo lo è e riescono a rendere benissimo, cioè è un lager alla fine nell'asilo in Toy Story 3 e questo è forse uno dei suoi punti di forza, lo il ribaltamento di prospettiva. E un altro secondo me è vabbè, voi forse siete un po' più freddi da questo punto di vista, però la capacità di emozionare della Pixar, specie nella seconda parte, secondo me è fuori dal comune. Lo fa con pochi giochi di sguardi, con pochi momenti epici. Vabbè, pochi momenti epici, no, tutta la fine è abbastanza epica. Sì, vabbè, però nelle comodità del film, che è tutto un molto, molto frenetico. Il finale è veramente, so, due o tre scene, però cioè l'ultima giocata è qualcosa di bellissimo, secondo me, di delicatissimo. Sì, sì, però voi fan che vi sbrodolate davanti a queste cose, non capisco, per esempio sul forum io ho parlato di era necessario un seguito, oppure si è parlato del 3D, che qui ho usato benissimo, ah, il 3D... Perché non usarlo, visto che si guadagna? Ne parlava Labyrinth. Insomma, diceva, il 3D è usato poco, ma saggiamente. E qualcuno gli diceva, allora perché usarlo? Perché? Si può guadagnare, perché non farlo? Ecco, sì. Non mi piace questo ribaltamento. Ma neanche a me piace questo ribaltamento. Infatti io aspetta, lasciami parlare. Se lo fa l'ultimo cretino... Ah no, il 3D usato così, ma siete dei deficienti, usate il 3D solo per guadagnare. Lo fanno loro, ah, il 3D. No, ma infatti c'è... Al di là del discorso qualitativo, sì. Non parliamo di questo, loro partono di partenza. No, ma è comunque una macchina per far soldi il 3D, che lo usi la Pixar o che lo usi la DreamWorks, è comunque una mera operazione commerciale. D'accordo, forse ma sì, onesto di dirlo sia per questo che per i film di merda. Vabbè, se uno non è onesto, vabbè, ma il fan irrazionale non l'ha inventato la Pixar, no, insomma, sì. Quello è fatto. Non parlavo di voi. Sì, e sì, poi... sì, no, l'ho capito, sì, perfetto. E poi, anche il discorso sequel, ci sono dei capolavori in cui i fan proprio si immolano, dicendo, ah, servono seguiti assolutamente. Invece, ma sì, perché no? Come perché no? Perché è finito. Cioè, va bene, mi sta benissimo l'idea. Andy che è cresciuto, bisogna chiuderla, insomma. Però poteva anche finire lì. Io l'avrei fatto finire dopo l'uno. Il 2 è molto meglio dell'1, ma è quasi una coppia inutile. Anzi, è una seconda parte. È un remake Bigger and Better, proprio. classica filosofia sì. americana, diciamo. Sì, è una seconda parte dell'uno anche. Sì. È una continuazione. Sì, ma il 3 ha senso comunque, proprio principalmente per tutti quelli che hanno visto l'uno e il 2. È un film che tu se tu sei non appassionato, ma semplicemente sei vissuto i primi due film, quando ti vedrai il terzo, c'è cioè una malinconia addosso che ti lasciano altri pochi film, ma non perché sia un film molto malinconico, ma perché l'hai vissuto proprio, capito? È una cosa che non tutti i film ti possono regalare, quindi certo che c'ha senso, anche tanto per quelle non so quanti migliaia di persone che hanno visto l'uno e il due quando erano bambini. No, ho capito, poi quando lo vedo, cioè, quando poi l'ho visto, i miei dubbi, se era necessario comunque, sono dissolti davanti a questa buona idea. Poteva uscire una cagata, invece sì. Hanno proprio fatto una buona idea. Beh, c'era un articolo oggi su Cineblog che parlava di una recensione di Shrek 4. Forse quello è l'esempio, forse proprio per capire la differenza tra un seguito comunque ben realizzato e uno invece che proprio è sfrutta soldi, solo sfrutta soldi. Perché poi, vabbè, è sempre un discorso molto... non lo so, molto moralismo spicciolo, insomma, è un discorso basato sul moralismo spicciolo questo, perché alla fine sono comunque aziende che devono guadagnare, il brand tira e quindi si fa un seguito. Alla fine è sempre questa la cosa. Spicciolo, è un discorso il moralismo spicciolo è il fatto di dire lo fanno per passione, non lo fanno per passione, lo fanno comunque per guadagnare, perché il brand però tira. Però ci vedi che dietro c'è una passione, lo vedi che dietro, perché sennò non veniva un prodotto del genere. Ma anche il discorso del 3D, comunque lo facciamo per guadagnare, ma lo facciamo bene. Infatti nessuno va a difendere il 3D, il 3D No, quello di Pixar va difeso, perché comunque sì, ok, lo facciamo per far soldi, però almeno lo facciamo bene. Non ti pigliamo per culo con le cose che escono dallo schermo, ma lo facciamo per fini cinematografici. Lo facciamo per guadagnare, però lo facciamo bene. Comunque è da salvaguardare questa filosofia, rispetto casomai a chi converte i film alla meno peggio dopo... che l'ha girato in 2D e escono delle cagate allucinanti. Sì, però i fan di Toy Story partivano in questo modo. Allora, esce un nuovo Alien vs Predator, titolo a caso, ed esce il nuovo Toy Story. Non sanno assolutamente niente delle trame, né sceneggiature, né idee, niente. Alien vs Predator, sequel inutile, perché farlo? Toy Story invece non sanno niente, eppure, dobbiamo vederlo, sarà un altro capolavoro. Perché comunque la Pixar dà più fiducia sicuramente dei produttori di Alien vs Predator, già in principio. Il fatto è quello che ti ho detto prima, il fan irrazionale non l'ha creato la Pixar, esiste da sempre. Per dirti, anche il fan di Guerre Stellari, che figata, esce una nuova trilogia, poi invece casomai uscirà il seguito di un altro film di 20 anni prima, era una cagata, quando alla fine sono le stesse cose, cioè è comunque il ragionamento del fare irrazionale di Pixar, che tutto quello che fa Pixar è oro, anche senza sapere la trama o per un trailer per farsi un'idea, diciamo, è comunque oro, mentre le stesse cagate. Non è una fiducia a priori, nel senso, diciamo che se la sono guadagnata. Quindi sì, no, perché in realtà se la sono guadagnata. Allora, però il cinema commerciale, come c'è cioè, il discorso, il seguito, il cinema commerciale non può essere una cosa, diceva Darkman forse, può anche essere comunque, può esserci passione, ne parlavamo prima di Spielberg. Cioè, è normale, perché io sono d'accordo su questo fatto, non il fatto dei fan irrazionali, cioè, ci può star bene anche un seguito con un po' di passione. Sì. Non è che avevo questi gran dubbi, ecco, io al contrario del Monco magari non sentivo non necessario, non mi ricordavo bene il 2, forse non l'avevo neanche visto, non so, però ecco, ad esempio, se dovessi fare una selezione direi avrei evitato il secondo, che comunque è buono per alcuni aspetti, migliore, però se proprio avessi dovuto fare più di un Toy Story avrei fatto il primo e il terzo, perché il secondo, certo, come hai detto, è una replica migliore, quindi certo migliora quello che era già stato proposto dal primo, va bene, però appunto ripropone, invece il terzo chiude un ciclo, quindi ecco, avrei fatto così. Mentre gli altri due e basta. Sì, mentre gli altri due sono un semplice ritorno a casa, questo è un ritorno a casa e qualcosa in più. Per carità, il secondo è più il sequel un po' più paraculo, anche se è buono, non nego, però insomma capovolge un po' lo schema, ma neanche tanto, perché in fondo Woody spariva nel primo, sparisce anche nel secondo, per ragioni diverse, contesti diversi, però quindi E poi c'è, insomma, non c'era il passaggio fondamentale che c'è nel 3. Nel 3 c'è la crescita, c'è l'addio, c'è la maturazione, che dà un perché al seguito. Nel 2 no. Insomma, è solo sui giocattoli il primo, sì. Secondo, no? E qualcun altro vuole dire qualcosa su Toy Story 3? Due cose. La critica più positiva è che ha convinto uno come me, che era dubbiosissimo di partenza. Quindi. E invece la critica negativa è quel finale che mi è sembrato molto DreamWorks, quello dove no. Cantano. Ah, vabbè, quello è tipico della... cioè comunque c'è anche in molti altri film Pixar, a volte ci stanno i blooper, a volte ci stanno anche quelli per le quinte. Sì, ma cioè non... No, vabbè, mi è sembrato un po' DreamWorks quello, un'idea un po' bruttarella. Però aspetta. Ci passa comunque un abisso tra quello e Living la vita loca di Shrek 2, in ogni caso. Esatto, è la stessa cosa, ma fatta dalla Pixar è comunque passabile, sì. Fatta dalla DreamWorks è quella cagata lì. Però sì. Vedi che la cosa è simile, molto simile. Sì, sì, sì. Sì. Mi ha dato un po' fastidio, però vabbè, va bene. Invece un commentino sul corto prima del film? Aspetta, volevo aggiungere una cosa sul film. Sì. Darkman diceva del finale, come fa a non colpirti, però volevo precisare, per carità, ha colpito molto anche me, è inevitabile, molto azzeccato come tempi, sguardi, poi insomma quell'età l'abbiamo avuta tutti, quella fase sentita o meno l'abbiamo avuta tutti, quindi non può non colpire, però anche lì è un merito del film, nel senso, in parte sì, ma lo fai sembrare come se fosse un insieme di cose, di idee che geniali che portano lo spettatore a quella reazione, invece no, in gran parte la reazione è dovuta proprio al fatto che abbiamo passato anche noi quelle esperienze e insomma, ti mette in una condizione di che inevitabilmente ti tocca, anche se fosse stato fatto male, però c'è, adesso non so se posso dirlo perché spoiler, però c'è, vabbè, tu sai di cosa stiamo parlando, c'è una cosa che toccherebbe chiunque anche se girata malissimo. Cioè, la chiusura di un ciclo, anche sia per una persona che ripensa al suo passato, sia per un fan della saga che dice adesso è finita. Quindi penso che come la facevano sarebbe stata. Cioè, non penso che il finale fosse questa esplosione di emozioni. Ma a parte il finale, proprio tutta la non lo so, gli ultimi 20 minuti del film, sì, in cui sembra da un momento all'altro che potrebbero fare una brutta fine i giocattoli. Ma sì, da prima ancora, se io parlavo degli ultimi minuti, cioè... No, non solo quelli, quindi all'inizio dice, adesso si salvano, adesso si risalveranno, però quattro volte... Alla fine dice, ecco, stavolta la fine arriva, poi soprattutto là, mo non lo dico, ma quando proprio si prendono per mano... Sì, c'è la scena, diciamolo, tanto chi si sentirà comunque l'avrà visto il film, la scena della fornace è comunque... L'inceneritore. Molto... Sì, e poi qualcuno l'ha detto sul forum. L'artiglio! Qualcuno sul forum ha detto che semplicemente ha la genialità di aspettare un po' di più, no? Non succede nulla di diverso da altri film, no? L'ultimo minuto, il climax, però lì... Sì. Aspettano quei secondi in più che ti fanno sorgere il dubbio. Quindi c'è anche parlando della stretta di mano, gli sguardi, ti blocca. Ecco, lì c'è anche un parallelismo con le scene precedenti in cui c'erano il gioco di sguardi. Alla fine, comunque, uno dei due protagonisti cercava di risollevare la situazione. Lì invece vedi proprio cioè, comunque ci mettono l'anima in pace. Sì. Sì, c'è una resa. Io sul fatto che il finale sia un po' ruffiano, comunque sì, è vero. Nel senso che... No, non volevo dire sì, cioè, in un certo senso sì, però volevo dire, ha dei meriti, ma non, cioè, guarda, è lo stesso fa lo spettatore. Sì, ma è lo stesso discorso del 3D, sì, alla fine comunque, anche se fosse stato realizzato male, sarebbe stato comunque toccante, però è realizzato benissimo. Tutta la saga, cioè, anche di Toy Story 1. Sì. Cioè, è già il fatto di metterci giocattoli. Sì. Ti tocca, no? O sei uno che è cresciuto senza giocattoli, inspiegabilmente. Certo. L'idea, la genialità sta lì, poi insomma da lì a... E il pregio sta tutto nel fatto che è realizzato veramente da divinamente, quello è il fatto. E poi già visto che non se ne è parlato tantissimo, a parte il 3D che io non ho potuto vedere, ma a livello visivo è spaventoso, a parte i giocattoli in sé che non mi costonano, ma insomma... Sono un po' più coloriti, ma i fondali, l'ambientazione, insomma, i muri, il dettaglio, lo spigolo, a volte sembravano fotografie, sembrava quasi che avessero preso un ambiente, ci avessero messo sopra in digitale i pupazzi, invece no, è tutto costruito, però è la porosità dei muri in certe scene che si vede molto da vicino, è spaventoso, e la qualità è... Poi soprattutto ho visto da poco l'1 e il 2, che comunque già nel 2 c'è un bel salto, ma è mostruoso il livello, cioè anche una crescita qualitativa sul piano estetico come saga. Sì. Notevole, cioè nel senso si vede proprio la differenza da come è cresciuta la Pixar come produzione, come certo. soldi, come abilità. Certo. No, come l'avete visto tutti il corto all'inizio, no? Cioè non è che bello, no? L'abbiamo scaricato, dai. Là ad esempio concordo con chi ha detto che forse senza il 3D si perde qualcosa, perché il gioco di profondità lì è importante comunque. Sì, ci ho pensato mentre lo vedevo a cosa volevano mirare, però comunque godibile, cioè l'idea rimane. Sì, sì, sì. Ah, cioè, sicuramente la cornice del personaggio e lo sfondo creava quel senso di... Forse è il modo più bello di usare il 3D, perché hai tutto lo sfondo monocromatico e poi l'immagine che dà spessore, quindi sarebbe stato sicuramente la cosa che valeva proprio la pena vedere il 3D. E comunque l'idea di fondo è bellissima, quella del sì, corto, eh. Essenziale, di solito. È come tutti i corti all'inizio, non sempre molto semplici. Sì. Però appunto, beh, come poi tutta la saga, le saghe Pixar, sono la semplicità usata con un po' di cuore. È molto bello il discorso che fa la radio, no? Sì. Odiano il diverso, no, bellissimo, davvero. Sì. Come originalità e come anche contenuti, bellissimo, bellissimo. Un'ultima cosa io, vorrei... io, beh, di. Io ero dubbioso su un sequel di questo corto, quindi... No, io un'ultima cosa che volevo dire su Toy Story 3 è che a differenza degli altri film Pixar non si nota il momento di stanca centrale, è tutta una corsa, non si stacca mai gli occhi allo schermo, non c'è il momento in cui non succede niente, non so, forse è pure un passo in avanti per i film Pixar, chissà che i prossimi film non saranno anche da questo punto di vista migliori di quelli precedenti, diciamo. Toy Story 2 l'avete visto tutti? Sì. Ma sì. Woody lì quando capisce che insomma prima o poi Andy crescerà e quindi è meglio stare diventare immortali con un collezionista. Sì. Ma lì Woody si arrende subito così. È sempre stato uno che Andy di qui, Andy di là, Andy è il mio bambino, non lo abbandonerò mai. Invece lì in 3 secondi dice, ma sì, vabbè, dai. Ma quello non mi è piaciuto granché. Comunque vabbè, ha trovato i suoi amici, ha trovato, insomma, l'hanno convinto bene a rimanere lì. Però, insomma, Andy per lui è Andy. Ma c'è la questione della rottura del braccio, lui si vede trascurato, invece negli altri film... Lo intuisce solo nel terzo. E poi nel terzo pure è trascuratissimo. No, beh, ma nel senso il segnale del degrado. No, nel terzo se lo sta portando al college, quindi comunque non è... Sì, però non lo sapeva subito. No, comunque erano 10 anni che non erano toccati, se non 10 comunque erano 8-9 anni. Comunque... Appunto, per almeno 8-9 anni Andy non l'ha mai cagato, eppure lui è rimasto fedelissimo a Andy. Qui, dopo vabbè, un braccio rotto, che comunque si ripara, la mamma di Andy voleva subito riparaglielo, subito la sua fede in Andy vacilla e dice, vabbè dai, andiamo con le collezioni. Forse è un po' come la moglie tradita, che sul momento dice, t'ammazzo, t'uccido, e poi casomai decide comunque di stare tutta la vita col marito. Sì, che sì, però Andy lì festeggia, balla, si mette lui nella borsa. Anche un aspetto umano ai giocattoli alla fine, così. Dà anche un aspetto più umano, un po' incoerente, non sempre logicissimo. Sì, ci può stare, sì, incoerente. Irrazionale, dai. Poi anche il fatto che gli creano quel contesto, no? Lui è un eroe, è un oggetto da collezione. Insomma, da un lato è un momento trascurato. Ha un braccio rotto, lui non lo ripara, sì, la madre lo propone, ma lui non lo fa, cioè in un certo senso non c'è quell'interesse immediato, lui lo vede come una potrebbe essere offeso sul momento. Poi di colpo gli si presenta quell'occasione, ha la possibilità di essere, lo pompa molto anche il vecchio, non mi ricordo come si chiama, comunque il personaggio, il minatore. Sì, lo incoraggia in questo senso, subito lo fanno sentire un eroe al centro, trova il suo universo, no? L'ambiente western, un insieme di cose sul momento. Sì, insomma, ma già di per sé, appunto, essendo una replica, è difficile trovare un'idea originale per far andare via un personaggio, dopo che nel primo hanno lottato tanto per riunirsi. Diciamo che alla fine funziona anche bene per essere, appunto, una replica. Ok. Va bene. Non lo so, vogliamo parlare di altro? o... Sì, dai, veloce, veloce. Vai, veloce, ci volevi parlare di Mago di Oz, dai. Parto subito io. Rimanendo sempre in cartoon, volevo consigliare anche Los Carriños. Un'opera minore originaria del Brasile, ma che merita. E poi, visto che ne ho parlato spesso per la puntata, consiglio Il Mago di Oz, che nonostante i suoi 71 anni, sì, siamo 71 anni, fa ancora la sua porca figura con quei colori e quelle musiche, quelle scenografie terrificanti. Vorrei vederlo in Blu-ray, purtroppo l'ho visto solo in formato normale, perché credo che il Blu-ray lo esalti in maniera impressionante, e quindi lo consiglio a tutti. Ok, io invece consiglio un film invecchiato di 33 anni, sì, Gli Intoccabili di De Palma. Vabbè, non sto là a raccontare la trama, insomma, è l'indagine condotta a Chicago da Elliot Ness nei confronti di Al Capone, che viene accusato di evasione fiscale, vabbè. Il punto di forza secondo me è che viene raccontato tutto come una, quasi come una fiaba, non è realistico o cose simili, non ha neanche interesse essere realistico, ci sono buoni e cattivi ben definiti, ci si emoziona, momenti epici, frasi memorabili e una colonna sonora che smorza quei momenti di violenza tipici Morricone. Di quell'epoca, insomma, sì, di Morricone, insomma. È un film molto bello, secondo me, non so secondo voi se condividete, insomma. Super De Niro, De Niro Berlusconi. Sì, secondo me De Niro, lo sai che abbiamo detto anche io alla mia ragazza, lo stavo vedendo. Anche praticamente... esteticamente lo ricorda. Sì, sono anche chiacchiere distintive. Sapete che cosa amo di questo paese? Il baseball. No, lo devo dire io. Dillo, io le recitazioni manco se l'ho visto fra due minuti fa il film, me lo ricordo, quindi. Miglior De Niro? No. Non so. Ottimo. Secondo me sì. È comunque una cosa anche molto personale. Toro Scatenato, Taxi Driver. Sì, per carità. Vabbè, però pure qua comunque c'è una mimesi dal punto di vista fisico. Cioè, c'è una trasformazione fisica e... Non lo so, cioè, secondo me è la sua migliore. Vabbè, è una cosa personale. No? Sì, è un parere personale, insomma. Comunque sconsiglio il libro, scritto da Ness. Non è uno scrittore, non è capace, non coinvolge. Il film è 10.000 volte meglio. Sì. E non so, tu volevi parlare qualcosa, Nicolete? Sì, veloce... è anche io un film vecchiaccio del 59, La furia dei Baskerville, titolo orribile in Italia, di Terence Fisher con Peter Cushing e l'immortale Christopher Lee. È una delle quattro trasposizioni del romanzo di Doyle, secondo il Morandini la più riuscita, non so, io non ho visto le altre, ma non è granché, se non fosse che per tutto il film sia i membri della famiglia che gli altri si ostinano a chiamare Baskerville, non so perché. E poi, piccole variazioni, secondo me non necessarie neanche per motivi cinematografici. Insomma, una trasposizione, forse la più fedele, ma non così fedele, non così bella. Evitabile. Ok. Vabbè, chiudiamo qua. Qualcuno vuole... Sì, anche che l'ora è tarda e la palpebra cala. Qualcuno vuole... La durata di Satan Tango, come... Sì. Qualcuno vuole di qualcosa? Ciao, sì. Volevo una cosa ai miei fan che andrò in vacanza e sarò assente. Un bacio a tutti. Anch'io volevo dire una cosa ai miei fan. Che il Monco ed Intrinseco non sono così, veramente. Che hanno un cuore. Non sono così che state lì a leccare il culo. Comunque, no, non sono così. Siete delle opere minori. Ho ammaccato il dondolino. Giro di saluti finale. Dai, ciao Nicolete. Ciao, ci vediamo quando torno. Ciao Barman. Ciao Barman. Buonanotte a tutti. Ciao Baba Monk. Buonanotte e buona fortuna. E Alex Diro ci saluta. Ciao. Bene. Pica pica. Live long and prosper. Per prima cosa ci scusiamo con chi ci ha più volte chiesto di trattenerci entro l'ora di durata. Gli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata ci stavano particolarmente a cuore. Avevamo talmente tante cose da dire che mi sembrava ingiusto tagliare i vari interventi in sede di editing. Il nostro caro intrinseco, come avete sentito in trasmissione, parte il 16 luglio. Abbiamo comunque deciso di fare qualcosa di diverso da una puntata regolare in sua assenza. Infatti registreremo a breve la prima puntata di I Cineplegici, le scene eliminate, ovvero una chiacchierata spassionata di un'oretta scarsa su un argomento specifico. In occasione dell'uscita del remake di Predator e delle prossime uscite di vari film action, di cui abbiamo parlato anche sulla pagina di Facebook, parleremo di come il genere si è evoluto dagli anni d'oro, ovvero dai primi anni 90 e i precedenti anni 80, insomma. Come avete notato sul blog non è stato pubblicato nient'altro dopo la recensione di Bright Star del Monco, questo perché siamo quasi tutti universitari, abbiamo anche altri impegni e per il momento abbiamo un po' accantonato quell'idea. Sicuramente la riprenderemo in futuro perché ha avuto comunque un valido successo la recensione di Bright Star. Ma nient'altro, vi ricordo che potete scriverci alla solita email cineplegici@gmail.com e vi saluto e mi auguro che ascolterete tutti questa puntata e che vi piacerà moltissimo. Stiamo avendo un successo molto discreto, soprattutto su Facebook, ma anche i dati che riguardano i download dei nostri file sono abbastanza incoraggianti. Vi saluto tutti e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!